È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Ho denunciato la Zanzara per violazione di domicilio e nel silenzio della sera volevo compiere un omicidio. Non ho ragioni per credere che quella Zanzara ce l'avesse con me. Niente di personale, ma la Zanzara di notte in città. Fra poco aggiornamenti, cari ascoltatori, su chi ha denunciato la Zanzara. Denunciata per un'intervista. Ho denunciato la Zanzara per violazione di domicilio. Denunciata per aver intervistato un protagonista dell'attualità. Volevo compiere un omicidio. Ho cominciato a chiederle se poteva andare nei gatti, non da me. Ma lei mi ha detto quei peli. Mi raccontiamo più tardi. Intanto torna a parlare l'ex sceriffo di Treviso, Gentilini. Sentite. La reintroduzione della leva, io la chiedo aperti e sberbi. Credo che sarebbe un punto di riferimento per i giovani. Adesso i giovani. Lettera a Monti, Gentilini, una lettera a Monti. La lettera a Monti, beh, l'ho scritta in tante, l'hai capito? Catturare, catturare, poi schiacciare, ma che stupido animale. Ancora Gentilini. Alleanze? Nessuna. No, io ho sempre detto che nella vita basta che ci sia uno che comanda. Non voglio essere condizionato da pareri, sottopareri, da portaborse, da onorevoli. No, una cosa quando è decisa va portata alla fine, quindi uno solo che comanda e basta. Quindi solo Lega. Solo lei. Ultimissima. O Lega o Gentilini. Ultimissima cosa. La voglio risentire questa risata, la risata dell'ex sceriffo di Treviso, Gentilini, che ancora vuole ricandidarsi. Risentite. Sempre in sempre intorno alla Lega, anche Bossi parla. Italia del farabuttismo, fuori dai coglioni, torna a parlare di separazione. Non dobbiamo padanizzare l'Italia, dobbiamo mandarla a fare in culo. Sentite. Roma andrà avanti a portarci via tutto. È illusorio pensare di fare trattative. O riusciamo a liberarci oppure siamo costretti a subire. Altro che bello. L'Italia del centralismo, l'Italia romana, l'Italia del farabuttismo deve andare fuori dai coglioni. Altro che storia. Il silenzio della sera. Volevo compiere un omicidio. Non ho ragioni per credere che. E ancora Bossi che parla esplicitamente di paese di merda. Sentite. Dove è finito il federalismo fiscale? Monti ha fatto un decreto legge, l'ha spostato nel tempo, per cui la legge c'è ma non si applica. Pensate un po' che paese di merda. La legge c'è ma non si applica. Violazioni di domicilio e nel silenzio della sera volevo compiere un omicidio. Ho cominciato a chiederle se poteva andare. Infine le accuse reciproche tra centrodestra e centrosinistra sulla legge elettorale. Una cosa patetica, ridicola. Bindi, PDL vuole fare cadere il governo, ma si accusano reciprocamente. Volete arrivare alla legge elettorale, alle elezioni col Porcellum? Volete arrivare alle elezioni come vi conviene a voi? Bindi, sentite. Se il PDL si ostina a fare la riforma elettorale con la Lega, vuol dire che non vuole nessuna riforma elettorale e che soprattutto vuol far cadere il governo. Non si capisce cosa ci sia di male a fare un accordo elettorale con un altro partito. Il punto fondamentale è che la legge elettorale è semplicemente uno strumento che serve a ognuno per cercare di arrivare nel migliore dei modi possibili alle elezioni. Ognuno cerca di fare la legge elettorale migliore, non ci sono i buoni e i cattivi. Eccoci qui con la Zanzara 800 24 00 24. Zanzara che per una settimana inizia alle 18, poi ce ne andiamo, poi ce ne andiamo via alla fine di questa settimana. Mario Pepe è un deputato del PDL che adesso è il gruppo misto. Oggi in un'intervista dice: noi deputati siamo senza ferie, con uno stipendio ormai da impiegati, sono finiti i tempi dei privilegi, ci vogliono togliere anche i biglietti gratis del treno. Qualche mese fa qui alla Zanzara aveva spiegato perché la politica costa tanto per chi la vuole fare davvero, perché ci sono i matrimoni cui presenziare, i matrimoni dove andare, in Campania, nel proprio collegio elettorale, ovunque, fare i matrimoni per fare politica, Pepe. Lo sai quante testimoni di nozze ho fatto io quest'anno e quanti regali ho portato? Io ho fatto il testimone di nozze a 21 matrimoni. Cioè, c'entra che se il deputato deve fare da ufficiale di collegamento con i cittadini, perché io sono un deputato all'antica, quello che prendeva le preferenze, sto dicendo, se uno deve tenere i rapporti con gli elettori, o ha, diciamo così, delle esigenze, delle spese che non ha il professore di liceo. Avete capito? Il professore di liceo, il deputato. Siamo qui, Matteo Salvini è con noi, buonasera. Buonasera, non ho mai fatto il testimone di nozze, pur facendo politica da tanti anni, però non me l'hanno mai chiesto. Lo so, in alcune parti del paese funziona così, evidentemente, si fa politica andando a fare i testimoni di nozze e bisogna comprare... Da qualche parte. Bisogna comprare il regalo in questi casi. Credo che si riferisse a quello il signor Pepe quando parla di fare politica in un certo modo. Vabbè, stendiamo un velo. Ma tu hai notizie di Parenzo per caso? No, ma non mi cruccio se non lo sento. No, beh, questo come ascoltatore, voglio dire. Non ti disperi. La trasmissione possa farne meno. Si può fare a meno di Parenzo, ma non risponde al telefono, è scomparso nel nulla totalmente. Dunque chiedo a qualcuno, adesso comincerò a chiedere in giro se avete traccia di lui, perché non so nemmeno dove sia, in che località sia, al mare, a casa sua a Siena, a Roma, a Milano, potrebbe essere ovunque. Se lo vedo qua in Corso Sempione gli do un passaggio. Ecco, può darsi pure che lo incontrerai a Corso Sempione, non è escluso. Io voglio chiedere subito a Matteo Salvini, che è il segretario lombardo della Lega Nord, se anche lui definisce l'Italia, come ha fatto Bossi ieri sera, un paese di merda. No, magari è un po' volgarotto, ma un paese profondamente ingiusto, sì. È volgarotto dire paese di merda? Sì, penso che la gente sia stufa di un certo tipo di termini. Io posso pensarlo, ma evito di dirlo. È un paese sicuramente iniquo e ingiusto, e anche ladro, come dice Oscar Giannino, però magari merda, ma me lo risparmio. Ma in questo momento, dal punto di vista dei contenuti, per voi è meglio Giannino oppure Bossi? Ma non dico, magari è formalmente più corretto ed educato Giannino, ma non dicono cose tanto diverse. Adesso Giannino dice cose simili a Bossi, questo francamente mi sembra esagerato. Io ho sentito una bellissima trasmissione sulla secessione, sull'indipendenza del Nord, settimana scorsa, con Oscar Giannino, che diceva né più e né meno che non è giusto che qualcuno paghi più di altri, che è quello che sostiene la Lega da vent'anni. Poi Oscar Giannino non dice merda, e si mette dei papillon molto colorati. Non è separatista, però. Ma non lo so. Addirittura. Non lo so. Diciamo vabbè, in questo momento, alla Lega serve. La Lega molto volentieri. Questo lo coptereste nella Lega e lo prendereste nella Lega molto volentieri. Assolutamente sì. Non so se gli farei un favore o meno, però rispecchiamo molte delle posizioni che noi alterne fortune sosteniamo da anni. Ma perché non lanciate allora l'ipotesi di un accordo Lega con questo pseudo movimento partito che vuole fare Giannino? Lo lancio alle 18:20, se vuole, a titolo assolutamente personale. Matteo Salvini, segretario della Lega Lombarda, farebbe estremo piacere ragionare di politica, un'alleanza con il movimento nazionale, con Oscar Giannino, sì. Allora, però io dico questo, allora, in questo momento, per quello che riguarda, ripeto, la politica di oggi eccetera, più Giannino meno Bossi. Perché no? Ma è così, alla fine vi serve di più Giannino di Bossi, diciamo la verità. Guarda, io non sarei in collegamento con lei se Umberto Bossi non fosse partito 20 anni fa. Vabbè, ormai. Che la riconoscenza in politica sia merce rara, però non dimentico, detto questo, la Lega ha cambiato pagina, questo è fuori discussione. Però non sembra, Bossi viene intervistato un giorno sì e l'altro pure, e dice anche che per esempio rimetterebbe in pista alcuni che sono stati espulsi. Ha il potere di farlo? Ha il potere di farlo, sì, però non so quanto interessi ai radioascoltatori in questo momento. Oggi ci siamo trovati come Lega, però abbiamo parlato di questioni molto più concrete. Questo lo dite a noi, lo dite a noi che avete parlato di queste cose. Avete parlato anche di quello che dice Bossi, il quale dice... Anche, però le devo dire che nelle riunioni avute oggi pomeriggio ho parlato di banche, di agricoltura, di caccia, di finanziamenti ai comuni e non di espulsi della Lega. Ma è giusto che qualcuno debba rientrare o no? Ma se qualcuno è stato allontanato ingiustamente per invidia, per cattiveria, perché era troppo intelligente per qualcuno, è giusto recuperarlo, però ripeto, ci sono la Lega a 600 sedi aperte in tutto il nord, saranno problemi delle singole sedi decidere se e chi recuperare. Poi Boss ha detto anche un'altra cosa, lo Stato italiano ha fallito, non possiamo più restare in Italia. Anche lei non vorrebbe non vivere in Italia? No, io continuerei gradevolmente a vivere in Italia se ci fosse un po' più di giustizia fiscale. Quando io dalle tabelle di ieri del Ministero del Tesoro desumo che ogni anno ogni cittadino lombardo, a prescindere dalla Lega, qua faccio il cittadino lombardo che può essere di destra, di sinistra o grillino, ogni cittadino lombardo paga 4.000 euro in più rispetto a quello che riceve indietro e ogni cittadino calabrese ne riceve 3.000 in più rispetto a quello che paga, può andare bene per un anno, per due anni, per tre anni, non per 70 anni. E quindi dunque, dal punto di vista fiscale, l'Italia è un paese di merda, da questo punto di vista. Sì, è un paese profondamente ingiusto, non mi faccia dire merda che... Allora, di fronte a Bossi, Salvini è diventato diplomatico. Si può far capire che ma diciamo la verità: diciamo merda senza dire merda. Insomma, no, però no. Se uno paga 4.000 euro in più e uno ne riceve 3.000 in più, non mi sembra moralmente corretto. Allora, ma a proposito di Olimpiadi, ma lei si entusiasma qualche volta per il tricolore alle Olimpiadi o non gliene frega niente? Entusiasmo soprattutto per gli sport minori, devo riconoscere. Quando vedo il judo, il tiro con l'arco, la scherma. E per il tricolore che risuona? E per l'inno di Mameli? No. Non mi corrono i brividi lungo la schiena. Per gli atleti sì, per la gente che è contenta sì, ma per qualcuno che ne fa uso. Ma nessuno ne fa uso, chi ne fa uso? Su. Quando la nazionale giocava agli europei sembrava che insomma non ci fosse più lo spread, il debito pubblico, la disoccupazione, gli esodati, perché se si vinceva gli europei si sarebbe sanato. Ma lei non ha il sogno di vedere un giorno la Padania sul podio alle Olimpiadi, il sole delle Alpi? Ce l'ha questo sogno? Ovviamente sì, ovviamente. Prima o poi ci sarà, facciamo una data, che ne so, a Rio. Sono sicuro che ci sono tanti calciatori che c'è stato uno dei più importanti giocatori della nazionale britannica, Ryan Giggs, gallese, che non ha cantato l'inno inglese. Non è permesso di cantare l'inno inglese perché si sente gallese, però non ha fatto polemiche, polveroni. Qualche polemica c'è stata. Sì, vabbè, però intanto adesso c'è l'Italia, quindi... Gli appassionati di comunque che possiamo dire che a Rio ci potrebbe essere una forse a Rio è troppo presto, una nazionale padana olimpica, il sogno qual è, che ne so, nel 2020? Ma sì, come ci sono nazioni che non esistevano 20 anni fa e oggi ci sono, il Sud Sudan si è liberato non tanto tempo fa, anzi proprio quest'anno. Perché no? Se lei mi chiede se è uno dei miei sogni, diciamo che non è la mia priorità avere una nazionale padana olimpica. C'è qualche problema economico più concreto, però quello mi piacerebbe. Ma la nazionale lombarda mi piacerebbe ancora di più. Addirittura, mettiamoci pure la nazionale lombarda, diventa una Babele questa Olimpiade. Ma metti insieme Milan, Inter, Atalanta, Brescia. La nazionale lombarda di calcio, dice lei. Di sì, calcio. È una bella nazionale. No? Senta, ma Renzo Bossi che fa l'agricoltore, l'ha visto? Nelle non foto, l'ho sì. Visto, sì, non l'ho che visto, l'ha visto, fare, sì. L'ho visto sul giornale, sì, non l'ho visto personalmente, ma a farla agricoltore seriamente bisogna fare tanta fatica, quindi non... Però ci sta bene, non è il posto giusto? Non so, ma non è facile farla agricoltore, se c'è qualche agricoltore che ci ascolta non è che uno si improvvisa agricoltore, quindi non so se è portato, perché ripeto, bisogna avere competenze e far fatica. Su questo non c'è dubbio, E quindi non so se sia il suo futuro. È una cosa un po'... Immagino che il suo futuro non sia più in politica. Gli auguro di trovare altre strade, altrettanto soddisfatto. Se lo augura? Lei? Per lui. Ma per lui. Lei, anche per la Lega? che non abbia più un futuro in politica? Sì, perché il padre dice ha già dato. Perché il padre dice che può rimanere nella Lega, può tornare nella Lega o comunque può tornare a fare politica quando vuole, starà lontano per un po', farà altro, un giorno e se un giorno avrà decideranno gli elettori e i militanti della Lega, che penso abbiano già dato il loro alto contributo alla causa, quindi auguro tante fortune a Renzo Bossi al di là del mondo della politica. Dunque basta con la politica sicuramente. Dal mio punto di vista sì, assolutamente sì. 800-24-00-24 in attesa di Corso Sempione c'è? No, Parenzo non l'ho Parenzo visto, non c'è a Corso Sempione. Sono arrivato in zona Cadorna e non ho ancora visto Parenzo a fare l'autostop. Non c'è, lo pigliamo a calci. Può essere di grande aiuto. Lo prendiamo a calci nel sedere? No, lo conosco da anni, ogni tanto... Che dammi un consiglio, lo prende a calci nel sedere o no? No, calci nel sedere no, non ho mai preso o dato botte, però ogni tanto è radiofonicamente un po' fastidioso. Un po' fastidioso, eh? Sì. Ma se c'è il rinvio a giudizio, questa deve essere una risposta secca, se c'è il rinvio a giudizio, Formigoni si deve dimettere sì o no? Se c'è la richiesta, perché per esempio per Errani e per Vendola c'è una richiesta in via giudizio. Se ci fosse la stessa identica situazione, adesso tu mi dirai si devono dimettere anche Errani e Vendola, d'accordo? Io dico, secondo me ci vuole un grado di condanna, non tanti, un grado di condanna. Ah, un grado di condanna. Sì, non dico il terzo grado di giudizio, la Cassazione, però non mi basta neanche l'accusa, perché se uno dice Salvini è un ladro, non per questo Salvini si deve dimettere. Se c'è un grado di accusa e di condanna, sì. Cioè se c'è una condanna in primo grado, che ne so, per corruzione, per l'accusa per cui è stato richiesta, per cui è indagato, da un funzionario pubblico, un amministratore pubblico non deve aspettare tre gradi di giudizio. Un grado di giudizio di condanna mi è sufficiente perché ciascuno secondo la sua coscienza si faccia da parte. Bene, abbiamo la borsa, Matteo Salvini, grazie. Se vedi Parenzo, un calcetto piccolino, leggero, e mandamelo, spediscimelo a via Monterosa oppure, non lo so, a Radio Padania. Fagli fare un paio di settimane a Radio Padania, così lo svegliamo, su. Fallo prendere a sberle a Radio Padania giorno, su. Lo porto con me in giro per quartiere popolare di Milano. Ma lo pigliano a sassate là, lo pigliano a sassate. Appunto per questo. Voglio risentire Gentilini, partendo dalla risata. Mitico prosindaco, come diavolo si chiama, di Treviso. Di nuovo candidato. Fatemelo scatenare di nuovo, via. Una volta quando che te smorosavi, ti tendavi dal parroco e dire: mi che fai l'amore a Quietosa, come sia. Il parroco sapeva dire. Era l'ufficio informazioni. Vita, morte, miracoli, eccetera. Non sono. I militari non sono più un punto di riferimento. E allora cosa fanno tutti questi giovani 14-15 anni? Cominciano a frequentare le discoteche, telefonini, 3-4 telefonini, davanti a quei giochi che intorpidiscono il cervello. Ancora, voglio ancora Gentilini come una droga, voglio farmi una puntura di Gentilini. Sono stato alla dunata di Bolzano, ho sentito alcune grida, Lega, ladrona, venditore di diamanti, vedi? La gente fa di ogni erba un fascio e io non sono abituato a fare come gli asparagi, hai capito? Io sono un asparago e non voglio essere messo su un mazzo insieme agli altri, sia chiaro, molto chiaro. Ancora, vi prego, ancora, ne ho bisogno, Gentilini. Perché gli alpini decidono sempre, anche in guerra, quando bisognava uscire dalle trincee, era l'ordine, si parte, uscite dalle trincee. E oggi dovremo uscire dalle trincee delle secche in cui noi siamo precipitati. Ho bisogno di uscire dalle trincee e anche i politici lo dicono. Siamo come lei, siamo come lei. 800 24 00 24, la Zanzara. Andiamo con gli ascoltatori. Emilio da Pavia, buonasera. Buonasera. Dica. Io no, volevo semplicemente dire due parole. Io sono di origine persiano, ormai da 35 anni in Italia. Sì. Come diceva Padova Schioppa, diceva, sì, bella pagare a tasse, ma io pago, voglio essere anche servito per quello che pago. Non mi lamento quando pago tasse, quella cosa. Però quando pago tasse viene pagata da certe persone, come quelli che dicevano Italia è un paese non... Uso usare questo termine. Italia paese di merda, l'ha detto Bossi ieri sera. Facciamolo risentire, Emilio. Un attimo. No, lo voglio risentire. Le voglio fare male, Emilio. Sì, le voglio fare male. Sentiamo. Che paese di merda. Ha capito? Ministro che ha mangiato, vissuto su quel posto. Sì. Non è possibile. Ancora Bossi. Che paese di merda. Ha capito? Cosa smettiamo? Dobbiamo far sentire quello che ha detto Bossi, no? Ma una persona come lui non ha nemmeno cervello di parlare, o come lui, tutti come lui. Io direi adesso, io potrei girare sue parole così, sì. Posso? Sì. E diremmo che Italia è un paese bellissimo. Io ci vivo dentro, ma non è, sì, quello che dice lui. Possiamo dire si è riempito delle water, sì, come... Parlamento, aula, consigliere regionale, provinciale, comunale, pieni di questi M, è ora di tirare. Cioè, chi sarebbero queste merde? I leghisti? Ho detto queste parole. Questi politici, ora toccare il sifone per pulire, dare una pulizia. Ma chi? Tutti oppure alcuni? Dobbiamo... Italiani puliti, non quelli che sono quelli che parlano. Va bene, Emilio, grazie. Andiamo in provincia di Varese, Raimondo. Sì, Raimondo, chiama l'ambulanza per Gentilini. E sì, questo signore, anche se è persiano, poverino, ha ragione. Ma niente, io ho telefonato. Ma anche se è persiano, non è che sia un difetto. No, voglio dire, mi medesimo con lui, sono persiano anch'io. E allora? Niente, io ho telefonato per alcune sue affermazioni sulle dichiarazioni della Bindi. Che dice... Questa PDL vuol far cadere il governo perché non riusciranno a mettersi d'accordo sulla riforma elettorale. Ma lei non trova che sia più logico le riforme elettorali, visto che sono le regole che disciplinano, sì, le nostre elezioni, non trova che sia più logico che ci sia una coesione di tutti i partiti e le regole? Io me ne frego totalmente, guardi. Lei se ne frega totalmente. Della legge elettorale già... No, scusi. No, Raimondo, scusi un attimo, ho detto che una legge elettorale possa essere fatta a maggioranza, sarebbe meglio non farla. Che due partiti, dov'è il danno? Ma come dov'è il danno? Danno sta proprio nel fatto che le regole, se mi permette, le regole, io voglio dire, una legge la puoi fare a maggioranza e se non si trova l'accordo bisogna venirne fuori, ma qui stiamo parlando delle regole. Il sistema di voto, chi non capisce niente di politica, sì, dice, quando tu mettiamo il tasto, il dito sul tasto delle regole, per favore troviamoci, se non ci si vuol trovare, e io non sto attribuendo la responsabilità, sì, a ognuno le vuole fare nella direzione che conviene alla propria parte politica, nella maniera più assoluta. Infatti le sto dicendo, non ce l'ho con Alfano o con Bersani, perché per quanto mi riguarda, ma ognuno di loro vuole fare le regole come bravissimo, vuole. Bravissimo, allora. Soprattutto non vogliono prendere un governo, un paese come il nostro in questo momento, perché chi lo prende, cioè non ci lo sono prende, quelli vabbè, lasciamo perdere adesso questa considerazione. Non ci sono i responsabili e gli irresponsabili in questa vicenda della legge elettorale, ognuno fa il suo gioco. Grazie Raimondo, grazie. Roberto da Milano, Roberto, buonasera. Roberto, dica. Che sta facendo? Sì, sta mangiando? Che sta facendo? No, ero distratto. Vada. Niente, io ho chiamato sostanzialmente per dire che ero dispiaciuto per il processo d'Ambrosio, insomma, questo è evidente. E penso che questo sia un sentimento comune a tutti. E poi, in particolare, per quanto riguarda invece le polemiche di questi giorni sul modo suo di condurre la trasmissione, devo dire che devo dar ragione, purtroppo, a chi la critica. C'è anche da dire che chi la critica spesso, ma su che cosa, viene, scusi, su ma cosa? Sul modo di condurre, sul modo di parlare con le persone, sì, lei parli, non si preoccupi, parli sul dato del cretino, questo e quello, no? Parli, lei sta parlando, ma lei si sta sovrapponendo come fa di solito, sì, allora? Comunque due cose soltanto, allora, chi non è d'accordo a come, su come conduce la trasmissione può fare due cose. Sì. Non ascoltarla, sì. Oppure ascoltarla e non comprare neanche uno dei prodotti che vengono pubblicizzati nel corso della sua trasmissione. Sì. Terza cosa, fare come ho fatto io, telefonare, dire che può dire una cosa e poi dirne un'altra. Sì. La saluto e buona serata. Guardi che non ha fatto una grande impresa, chiamare per dire una cosa e poi dirne un'altra, perché anche se avesse detto voglio chiamare per criticare Cruciani o per criticare Parenzo, l'avremmo messa lì lo stesso, cioè non ha capito assolutamente nulla di come funziona qui, nulla. Alberto da Bergamo, buonasera. Salve Cruciani. Dica. Volevo solo augurare a Bossi, che dice che l'Italia è un paese di merda, un ictus di quelli belli forti. Noi ci siamo sentiti un po' di tempo fa in cui l'avevo chiesto come mai lei aveva definito Borghezio un uomo intelligente. Si ricorda forse che lei mi aveva spiegato che l'intelligenza può essere perversa, può essere cattiva. Mm. Non ho capito persona... che cosa si augura per Bossi lei, scusi, ancora non l'ho capito. Forti però. Ce l'ho già avuto l'ictus, Alberto, e comunque sì, l'ictus non si augura. È stato abbastanza forte perché no? Una persona, un politico, un onorevole, onorevole, si chiama Onorevole Bossi, che dice che l'Italia è un paese di merda, che la padania è di qua, ma se vuole fondare una padania, perché non va fuori dall'Italia? Se non l'Italia non gli piace, perché non vanno fuori dall'Italia? Alberto, però devo dire una cosa, l'ictus sì, non si augura a nessuno, nemmeno al proprio peggior nemico. Sì, no, ma questo è proprio una cosa un po'... Un po' che? Insomma, dopo un certo punto, quando uno... Borghezio è stato eletto deputato europeo al Parlamento europeo, parla male dell'Italia, parla male del Presidente della Repubblica. E dopo una cosa. No, lei ha detto un'altra cosa, che si augura un ictus, però si augura un ictus. Cruciani. Ma non si vergogna di queste cose? Non si vergogna di aver detto questo? Non si vergogna perché non si vergogna. Molto peggio. No, l'ictus no. L'ictus no. Cosa c'entra l'ictus con dire sì, Italia è un paese di merda? Cruciani. Cosa c'entra? Cruciani, Bossi augura delle cose. Alberto, lei si deve italiani. No, che non... lei si deve vergognare di quello che ha detto. No, non mi vergogno. Si vergogni di quello che ha detto, si vergogni. Lei è stato troppo supponente nella si sua... vergogni di quello no, che ha detto. Non mi vergogno assolutamente. Lei si è augurato l'ictus per un uomo, sì, per una persona. Sì. Si ma vergogni. Che persona? Non è una persona. E che quella. Cos'è? Che cos'è? Ha rubato fino adesso. Ma cosa ha rubato? Ma stia zitto. Ma stia zitto. Roma di qua, Roma da ladrona. Ma avrà rubato lei, avrà rubato, non Bossi. No, io non ho mai rubato niente a nessuno, guardi. Veramente. Si vergogni per quello che ha detto. No, non mi vergogno. Si deve vergognare. Ho ancora un ictus di quelli fortissimi. No, lei si deve vergognare come un ladro, non si deve. Mi vergogno, non mi vergogno. Si deve vergognare, sì, si non deve vergognare. Mi vergogno, guardi. Se non si vergogna significa che non ha nessun tipo di umanità, non ha no, nessun no, tipo lei... di nulla, oh, sì, nulla. Cruciani. Cruciani. Mi dica, mi dica. No, no, non è che non c'entra l'umanità. Non mi dica che Bossi ha umanità. Non ha nemmeno un pizzico di umanità, ma cosa c'entra che la Bossi politica? A lei Bossi... non piace Bossi come politico, questo non c'entra nulla. No, no, no, no, no, no, ma Bossi ne ha dette di cotte, di crude anche sugli altri. Ma cosa c'entra Alberto? Cosa c'entra cosa che abbia detto c'entra? Di Cotti? Di... Non ha augurato la morte di nessuno, non si è augurato ma la morte di nessuno. Una morte. Io non ho detto morte. Lei ha detto un bel ictus molto forte. A cosa porta? Non può più parlare, a cosa porta un ictus molto forte? Alberto, lei si deve vergognare, punto e no, basta. Non mi vergogno. Si deve vergognare. Sì, sì, va bene. Si deve vergognare, punto. Se non va si vergogna. Mi vergognerò. Se ci ripensa, poi alla fine si vergognerà. Sì, sì, mi vergognerò. Maria Grazia da Roma. Maria Grazia da Roma. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, ma questa chi è venuta l'idea di Oscar Giannino President? Ma no, so, a lui, a se stesso. A lui. Oppure no, perché voi gli fate un po' di pubblicità o mi sbaglio? Ma abbastanza, sì, senta, pubblicità, sì. Insomma, perché sono esagerato. Io non lo vedo, cioè, no, cioè lo vedo per radio, lo sento e più delle volte spengo perché francamente non riesco a capire quello che dice, parla un po' troppo veloce. È un po' logorroico e poi in una maniera che forse solo per competenti in materia. Vabbè, adesso non siamo qui a fare l'esegesi delle parole di Giannino. Lei non lo capisce, vabbè, pazienza. Non lo capisco. No, per questo voglio dire che siccome ultimamente l'ho visto. Lei non lo capisce, ho capito, lei non lo capisce, no, signora Maria Grazia. In maniera differente vestito anche. Ma no, non si è messo, non si veste in maniera diversa, si veste come sempre no? Allo stesso modo. Beh, prima insomma sembrava un manichino un po' vintage dei primi del Novecento. L'ho visto adesso? Invece tempo fa con un rubino un po', diciamo, un po' casual, casual, e mi sembra che sta ancora peggio, secondo me, perché lui è un Oscar, aspetti solo, aspetti un attimo, Oscar. Prego. Ha capito come risponde alle sue osservazioni? Sì, lei è molto bravo. Però, no, ma ha sentito come rispondere a quello che sta dicendo? Sì, no? Sì, vabbè, lei mette la risata che mette sempre, non è, che, beh, io certo. Non è che io sto parlando con Giannino, e che mi farebbe sa, piacere parlare che ne sa, con Giannino. Che ne sa che non è in onda Giannino? Perché lo so, perché conosco la sua trasmissione. Guardi. No. Farei risentire una cosa, il signor Pepe, oggi in un'intervista a Repubblica, Mario Pepe, deputato ex PDL, gruppo misto, che dice: noi deputati senza ferie, con uno stipendio da impiegato, ormai abbiamo 4.000, che sono 12.000, però se spendiamo per attività politica ci resta ben poco, le ferie le faccio a Roma, ci vogliono togliere anche i biglietti gratis del treno, che qualche mese fa alla Zanzara diceva queste parole, sentitele a proposito di come fa lui attività politica con i matrimoni. Lo sai quante testimoni di nozze ho fatto io quest'anno e quanti regali ho portato? Io ho fatto il testimone di nozze a 21 matrimoni. Cioè, c'entra che se il deputato deve fare da ufficiale di collegamento con i cittadini, perché io sono un deputato all'antica, quello che prendeva le preferenze, sto dicendo, se uno deve tenere i rapporti con gli elettori, o ha, diciamo così, delle esigenze, delle spese che non ha il professore di liceo. Eccoci, Attilio da Monza, buonasera. Attilio da Monza, sempre la Zanzara, 800 24 00 24, per una settimana 18, 20 e 30. Siamo in rodaggio. In rodaggio, ma molto meglio, senza Parenzo. Addirittura. Non vede la trasmissione come va bella fluida, come i vecchi tempi, che lei punzecchia benissimo destra, sinistra. La gente può parlare senza Parenzo. Stia calmo, non è così, ma non è così. Ma comunque lei la pensa così. Ha fatto amicizia ed è giusto perché. Ma lei la pensa così, va benissimo che lei la pensi così. Ma lei ascolterebbe lo stesso, anzi si incazzerebbe di più se ci fosse Parenzo. No, ma sì, ecco, incazzare sì, però è vero, ma incazzare non vuol dire essere interessati o attendere, diciamo, bene la trasmissione, diciamo, cercare di intenderla bene. Parenzo fa proprio di strano in quello, perché le faccio un esempio che lei ha sempre fatto. Ma la fluidità, non me ne frega niente della fluidità, Attilio, qui ci vuole sangue e merda, sangue e merda, la politica è sangue e merda, sangue e merda ci deve essere in questa trasmissione. Ma lei lo fa bene, ma lei lo fa veramente. Ma non si preoccupi di come lo faccio bene, se lo faccio bene io mi preoccupo perché lo faccio, lo fa bene, e secondo me è molto bello ascoltare la trasmissione solo con lei. Parenzo è fastidioso, ma non fastidioso perché è una zanzara o perché è bravo a fare il giornalista, perché assolutamente non è bravo, è incapace di stare a parlare con le persone, perché guardi cosa ha fatto lei anche prima quando parlava con quello della Lega, gli ha fatto dire un po' quello che voleva lui, lei, un po' quello che diceva, senza offenderlo, cosa che invece Parenzo fa. Ma no, ma lasci perdere, io offendo pure io ogni tanto. Ascolti me, mi creda che non c'entra se uno destra o sinistra, qui non c'entra niente, anche sapendo che purtroppo vede la differenza fra me e Parenzo. Lei, in qualche modo, bastona a destra, bastona a sinistra. Parenzo... Va bene, su, parliamo di qualcosa di concreto. Parliamo di qualcosa di concreto, su. Volevo parlare concreto, sono contento che oggi non c'è Parenzo, spero che non lo ritrova né in Corso Milano né a Siena, che si perda definitivamente, semplicemente quello. Poi gli dico un'altra cosa, purtroppo devo parlare solo di Parenzo, gli altri argomenti in questo momento non me ne vengono, non ho voglia. Sai cosa è fastidioso di Parenzo? Soprattutto per me o di gente come me che viene fuori da famiglia veramente operaia di ceto medio, che lui vuole difendere il ceto medio quando non lo è, quando non sa cosa vuole dire. Lui non si è mai provato a cercare un lavoro, perché tanto è andato a Tele Lombardia, perché tanto... Vabbè, adesso non è che dobbiamo fare passare le ore a parlare della storia di Parenzo o del fatto che sia meglio o peggio. Attilio, cioè, su. Creda che tanta gente gli interessa anche questo, perché mi creda, tra lei e Parenzo c'è un abisso. Sicuramente vabbè. Molto positivo il suo riguardo. E un'altra cosa, poi ho finito. in questo caso che io sto attaccando Parenzo, giustamente li sta difendendo. Se fosse stato l'incontrario, Parenzo non l'avrebbe mai difeso, è già successo mille volte. Ma io non sto difendendo nessuno, non c'è bisogno di difendere, ma non c'è bisogno di difendere nessuno, non c'è bisogno di difendere nessuno. Va bene, però si ricordi veramente, non so che dovete, ma Parenzo fa male alla sua trasmissione, mi creda, torni indietro a solo lei con due, è bellissimo sentirle. Bene, grazie. 800240024, c'è un imbecille che mi scrive: ma come, lei invoca l'umanità? Io non auguro la morte a nessuno. Dunque, se qualcuno augura, posso fare critiche molto forti, posso essere sgradevole, ma non ho mai augurato la morte a nessuno, nemmeno a chi mi manda a quel paese o chi mi prende a parolacce dalla mattina alla sera, quello no. Dunque, chi si augura un ictus, come l'ascoltatore prima da Bergamo, si augura un ictus per Umberto Bossi, lo mando a quel paese io e gli dico che è un cretino, un imbecille. Giuseppe dalla provincia di Lecce. Giuseppe? Sì, senti, pronto. O no? Dica. Pronto, buonasera. Vada. Se Bossi si permette di dire che l'Italia è un paese di merda, allora posso dire che Bossi, Salvini e Borghetto sono tre stronzi. E dico questo prima che cada la linea. No, prima, vuol dire? Allora, lei è sempre lo stesso che chiama con le tessere taroccate, con 10 numeri a disposizione in modo da eludere il filtro, eccetera. È molto bravo Giuseppe, è un pazzo totale, perché uno che usa questi metodi è malato. Però va bene, prosegua. No, di me, mi scusi? Eh? Sta parlando di me? Sì, sì, direi. No, lei lo sa benissimo, su, lo sa benissimo, dai, su, vada avanti. È la prima volta che chiamo, veramente. Va bene, sì, sicuro. Vabbè, Giuseppe, prosegua, su. Okay. Magari no, voglio dire, se vogliamo parlare di un sud che fa il furbo nei confronti dello Stato, io ho fatto una raccolta di prime pagine, di testate di articoli che riguardano invece truffe che non sono proprio affatto al sud. Per esempio, falso cieco che vedeva benissimo, truffa per 30.000 euro. A Torino, dov'era? Rimini, scoperti sì. in Veneto 2300. Senta, falsi poveri. Sui falsi invalidi. Non pagavano il ticket, sì. Io lo vorrei ricordare a sui falsi Salvini, invalidi, no? Sui falsi invalidi penso che il sud non batta nessuno, eh. Cioè, adesso no, non cominciamo a fare. Lei quando parla del sud, innanzitutto deve leggere bene la storia. Sì, sì, ma lasci perdere la storia. No, lei lo deve fare perché sennò. Ma lasci perdere la storia. Se lei è un leghista, se lei è, io non sono leghista e comunque non me ne vergognerei. Max evasione da 500 milioni di euro 3 giorni fa a Vicenza, che sappiamo benissimo è una provincia della Sicilia, no? 500 milioni di euro che corrispondono, non so, a quante false pensioni, mi dica, 5.000, 10.000, 100.000, quante sono 500 milioni di euro di evasione a Giuseppe, Vicenza, senta, in Sicilia? Se lei ci vuole provare, se oppure, lei ci vuole... Oppure frode con fatture false, max evasione fiscale a Pavia... 120 se lei ci vuole provare, Giuseppe, no, cerca di dimostrarci. Lei è uno stalinista. Io stalinista. Allora, Giuseppe, se lei cerca di dimostrare. Le voci che lei. Ma stia tranquillo, lei ha potuto dire quello che voleva. Dunque, non dica stupidaggine. Lei è uno stalinista. Sì, io uno stalinista. Dire, io, certo, governo la trasmissione. Ma la Lega Nord vuole separarsi dall'Italia, vuole separare il nord d'Italia. E lo dico veramente con rammarico, perché a nord c'è tanta brava gente. Come quell'ascoltatore che ha chiamato prima e che si è augurato quella cosa a Bossi, io non gliel'auguro, però voglio dire, quel signore aveva delle buone ragioni e non era del sud. Guardi, allora, se la Lega, se Giuseppe, la Lega se lei cerca di dimostrare, se lei cerca di dimostrare, stia zitto un attimo, se lei cerca di dimostrare, guardi, lei è uno stalinista. Ma che stalinista? Stia zitto, ha detto quello che doveva dire, se lei cerca, ma lei ha finito, se lei cerca di dimostrare, se lei cerca di dimostrare, togliete il microfono, se lei cerca di dimostrare che al sud c'è più legalità che al nord, allora stiamo fuori strada, perché è evidente che la cosa va contro qualsiasi dato esistente in Italia, in Europa e nel mondo, ha capito? No, Giuseppe Cruciani, ascolti, lei è fuori luogo, le stavo finendo di dire una cosa, mi temi ancora? No, mi ma lei non è, che non è che lei può dire quello che vuole sempre. Cioè, no, ma lei non può leggere gli articoli che vuole lei, i giornali stanno lì, le cose che dico io stanno stampate e scritte, solo che voi non li leggete, voi fate passare questo stereotipo, questo standard. È chiaro che al sud si ruba, ma anche al nord. Io questo voglio dire, non voglio dire. E poi volevo dire l'ultima cosa. No, se non la può Lega dire niente. Umberto, se la Lega vuole separarsi? Se la Lega vuole separarsi dal resto d'Italia, prima restituisca i soldi al sud. Quali e soldi? Allo Stato centrale. Quali soldi? Allora lei vada a vedere i bilanci dello Stato centrale. Dal 1860 al 1920, poi si lega bene i 20 anni di fascismo, poi si lega bene dove è arrivato il neoborbonico. È arrivato il neoborbonico. Lei si va a finire, lei si va a leggere dove sono Sì, è arrivato il neoborbonico. Su. Marshall, i soldi del piano Marshall. Il piano Marshall, sì. Certo, e poi cioè, e perché non, lei, che ne so, lei, la lei guerra... Lei è uno stronzo, Cruciani, lei allora è uno stronzo. Sì. Se lei pensa che io sia un povero pazzo che sta dicendo numeri a capocchia, sì, lei è uno stronzo, Cruciani, veramente. Sì. Glielo dico... Glielo no, metto, ma lei lo può detto dire tranquillamente, certo, non è un problema, me lo prendo. Perché, voglio dire... Certo, infatti, se lo sì deve prendere. Allora, se la Lega si vuole separare dal resto dell'Italia... Deve vuole dare separare, purtroppo... anche una parte del nord Italia che non vorrebbe, sì, prima restituisca i soldi. I soldi, si restituisca certo i soldi, su. Il denaro, questa certo sera, questa la sera una bella punturina, Giuseppe, una punturina no, veloce, ascolti, veloce, una bella ascolti punturina. Gliela mando la sirena. Una bella, no, non c'è bisogno, cioè, ecco appunto, ma se la manda lei, ma se la manda lei significa che ha bisogno di una doppia razione, ha bisogno di una doppia razione. Certo. Umberto da Firenze, grazie, Umberto da Firenze. Sì, buonasera Cristiano, vale, la punturina favolosa. Una bella punturina, è una battuta rubata, devo dire al mio amico, al mio amico di non leggerlo, battuta rubata al mio amico di non leggerlo. Una punturina, adesso è la fase delle punturine. Lei ha meno di un minuto, Umberto. Sì, allora niente, le volevo solo dire due cose. Allora, una è innanzitutto, sebbene dica un sacco di fregnacce, mi permetta, comunque Bossi in ogni caso non gli si augura quello che gli augura, insomma, quel tizio di Vicenza, mi pare di ricordare. Meno male. Sicuramente, per dire, parla spesso a proposito, lui e anche qualcuno di coloro i quali fanno parte, diciamo, del suo entourage, tipo Borghezio, che è poi? E poi niente, le volevo dire che, insomma, il paese, è in questa fattispecie l'Italia, se la vogliamo considerare di merito, mi scusi il termine, sì, se c'è un'entità che si chiama Italia, e lo si deve considerare di merda solamente perché permette purtroppo a certi personaggi come Bossi e Borghezio di effettivamente continuare. Sei arrivato? Pronto? Sei arrivato? Pronto? Sei arrivato, sì o no? Parla Parenzo, chi parla? La Zanzara. Ah, buonasera, suo Cruciale, come sta? Bene, lei? Sì, bene, sono rimasto un attimo coinvolto. Dove si trova? Beh, in questo momento mi trovo nel Gran Ducato di Toscana. Sì, ecco, no, ma che cosa, per un'ora e passa, cosa è accaduto? No, ma infatti vedevo che c'erano delle chiamate, vedevo però un numero sconosciuto. Sì. Siccome avevo paura fosse il Quirinale e le telefonate con il signor Mancino, io ho detto meglio non rispondere, nel dubbio, un numero sconosciuto. Non dico, si risponde. Magari chiama il signor Fioravanti, sai, ecco, visto che le cose come sono andate. A proposito, comunque Parenzetto... Sai mai che chiami il signor Fioravanti, poi scoppia qualche casino. Esatto, a proposito... No, ho detto meglio non rispondere. Adesso ho visto il numero di Milano, ho detto rispondo, sarà il signor Cruciani. Abbiamo capito. Ecco. Intanto, Trame Nere. Trama nera, trama nera, sol con te si fa carriera. Trama nera, trama nera, tu dai la felicità. La contestata intervista a Valerio, detto Giusva Fioravanti. Sentiamo, poi vi leggo l'esposto, la denuncia contro la Zanzara. Vai subito, domanda di assunzione. Perdere un figlio e perdere la suocera sono due cose diverse, dici? Assolutamente diversa, anche perché se ricordo bene le perizie, poi la suocera non è affatto morta nella strada. La lacrima sul ciglio, la voce spenta. Ancora. Mentre io ricordo che avevo uno scontro con Secci, ma Secci aveva perso un figlio e quindi in qualche modo lui era giustificato nel suo odio molto, molto feroce. In altri casi mi sembra di capire che ci sia più una prevenzione ideologica che non un vero dolore. E oggi sono uscite anche le interviste originali, la voce originale di Fioravanti in quel documentario. Si sente molto poco, comunque si dicono le stesse cose. La frase sotto accusa è: perdere un figlio non è come perdere la suocera. L'attacco al presidente dell'associazione vittime di Bologna. Ebbene, un signore di Modena che si chiama Alessandro Smerieri, docente di storia italiana a Correggio, Reggio Emilia, scrive all'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Nella trasmissione in oggetto, Parenzo e Cruciani hanno telefonato a Giuseppe Valerio Fioravanti, condannato in via definitiva per il più grave delitto della storia repubblicana, la strage di Bologna, e responsabile di altri efferati crimini. I due conduttori non hanno spiegato agli ascoltatori chi stavano chiamando, hanno scambiato con lui saluti di cordiale familiarità e manifesta simpatia. Ciao Valerio, ehi là Giusba! E hanno poi chiesto conferma di una dichiarazione su Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione familiari vittime della strage di Bologna. A seguito di quei minuti di trasmissione, un ascoltatore di nome Luigi ha chiamato sdegnato. e con la voce rotta dall'emozione ha protestato contro il fatto che i conduttori non avessero correttamente introdotto il profilo dell'ospite. Cruciani ha a quel punto deriso il signor Luigi, sostenendo che non gliene fregava nulla di spiegare agli ascoltatori di dire chi era Fioravanti. Uno, se vuole, se lo va a vedere su internet. Sono seguiti a quel punto messaggi e altri interventi di ascoltatori, anch'essi sdegnati per quello che stava andando in onda. Cruciani ha reagito deridendoli: ascolta questi geniacci, David, e provocandoli con l'appoggio di Parenza. Richiamiamo Fioravanti? Cruciani richiama Fioravanti. Sì, sì, richiamiamolo. Pinto a quel punto dallo sdegno e dallo sconforto, ho deciso di spegnere la radio. Si muoveranno anche 800 24 00 24, questa è la zanzara che qualcuno vorrebbe sanzionare, punire, spegnere. Noi li manderemo a quel paese, li manderemo a quel paese. Ed aspettiamo, è con noi, che l'ordine decida, l'ordine dei giornalisti, vi aspettiamo. Ma perché dovrebbe decidere qualcosa poi? Con serenità. Va bene, è con noi invece da Palermo Salvatore Borsellino, buonasera. Sì, buonasera, devo correggerla, non sono da Palermo ma da Milano. Da Milano, che come fa? Sta, caro Borsellino? Sto, diciamo, bene, compatibilmente con tutto quello che succede nel nostro paese. Certo, non c'è dubbio. Senta, Borsellino, ma come l'ha presa lei questa, è inutile che ve lo presenti, Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, eccetera, eccetera. C'hai paura adesso, ogni volta lo dice adesso. Di che? No, dico, è inutile che ve lo presenti. No, è inutile che ve lo presenti, nel senso, una persona conosciuta. Per evitare sanzioni dall'ordine. No, ma quali sanzioni? Ma di che stiamo parlando? C'hai paura, eh? Allora, dottor Borsellino, ma che ne pensa lei di questa storia di Ingroia e il Guatemala? Questo è importante. Ma guardi, questa è una decisione che ha preso Ingroia e io... Ma è stato costretto, secondo lei? Ma no, io penso che possa essere dovuta magari questa decisione alle pressioni psicologiche che sicuramente ha subito, agli attacchi e a tutto il resto. Io sinceramente non è una decisione che condivido, anche se in effetti non si tratta sicuramente di una fuga, perché Ingroia, diciamo, aveva stata esaurita l'inchiesta, c'è stato il rinvio a giudizio e adesso, diciamo, ha ricevuto questa offerta per un alto incarico ONU su un argomento di cui lui è sicuramente uno dei massimi esperti. Ma che va a fare lì in Guatemala, Borsellino? Si va a occupare di narcotraffico a livello mondiale. Ma è un paese difficile, no? È un paese difficile. Infatti io vedo un grosso problema. Io sono sicuramente mesi che dico che il momento è particolarmente difficile, che questi magistrati come Ingroia, come Di Matteo, rischiano anche la vita per le indagini che stanno conducendo e che, diciamo, potrebbe esserci una nuova stagione di stragi. Ora, il fatto che lui vada in Guatemala, dove c'è una potentissima organizzazione di narcotraffico, si chiama la SEDE, teme per la sua vita. Io temo che potrebbe succedere che qualcuno, visto che ormai la criminalità organizzata si è globalizzata molto prima della Fiat e di altre industrie, qualcuno potrebbe chiedere ai narcotraffici del Guatemala, ai narcotrafficanti del Guatemala, quello di fare un favore a chi vuole eliminare Ingroia. Dopodiché, diciamo, Ingroia verrebbe, si direbbe che è stato ucciso in Guatemala, lontano dall'Italia, per cose che non c'entrano niente con il nostro paese, quindi e finisce a taraluce e bina il risultato voluto, senza, diciamo, averne le conseguenze. Scusi un attimo, dunque, c'è qua le stragi in Italia. Dottor Borsellino, dunque, qualcuno vorrebbe, secondo lei, qualcuno si frega le mani, è contento di mandare Borsellino magari a morire, Borsellino, scusi, Ingroia a morire in Guatemala? Penso che qualcuno possa essere sicuramente soddisfatto. Ecco, ma chi è soddisfatto oggi del fatto che Ingroia va via? La prima persona, chi è? Non parlo di persone, io parlo di sistemi di potere, di lo Stato che hanno aggredito la magistratura, che continua a aggredire la magistratura. Non parlo ma il Quirinale è soddisfatto, secondo lei? Senta, Napolitano è contento che Ingroia va in Guatemala? Io spero che il Presidente della Repubblica, essendo, come diceva la Costituzione, il Presidente di tutti gli italiani, non vedo perché dovrebbe essere contento del fatto che un magistrato valoroso e valido come ingloria si allontana dall'Italia. Sicuramente, insomma, c'è da pensare se il presidente di tutti gli italiani debba, come è successo, a mio avviso, mettere degli ostacoli sulla strada della giustizia, come ritengo che abbia fatto Napoletano attaccando la procura di Palermo, così come l'ha fatto. Dunque ha contribuito alla fuga di Ingroia, questo si può dire, Napoletano? Questo bisogna chiederlo a Ingroia. Senta, oggi tra l'altro Napoletano ha depositato il ricorso per il conflitto di attribuzione, in maniera formale, ufficiale. Ma lei ci crede a questa storia di Ingroia che, secondo Mannino, ha la foto di Che Guevara, aveva la foto di Che Guevara dietro la sua scrivania invece di quella del Presidente della Repubblica, o il crocifisso addirittura, dottor Borsellino? Io personalmente ho dietro la mia scrivania la foto di Marilyn Monroe, quindi può avere Ingroia, può avere le foto che vuole dietro la sua scrivania. Senta una cosa, ma la vicenda invece grave della morte di D'Ambrosio, come la vede lei? E tutte le polemiche? Io la vedo come una persona che è stata colpita da infarto. Molti hanno parlato di infarto procurato, no? Per le polemiche, per gli attacchi. Ma guardi, io conosco persone che hanno subito polemiche e attacchi ben più gravi di quelle che ha subito D'Ambrosio e che non sono morte di infarto. L'infarto arriva quando deve arrivare. Beh, era cardiopatico anche, Sì, mi risulta di sì. No, appunto, potrebbe essere stato già sofferente, poi le critiche, guardi, che ci sono state, insomma, sì. Il Presidente della Repubblica ha detto. Io sono cardiopatico anch'io. Mi si accusa di essere una persona che fa di professione il fratello di Paolo. Ho pubblicato oggi su un blog sul Fatto Quotidiano e tra gli altri commenti ce ne ho avuto alcuni veramente estremamente offensivi, proprio che mi offendono nel mio intimo, dicendo, mi hanno detto di essere uno sciacallo che si nutre della carne di suo fratello, delle cose terribili. Sono cardiopatico, ma l'infarto ancora non mi è avvenuto. Non è che l'infarto debba necessariamente venire a seguito di critiche. Lei non ci crede alla storia, non ci crede alla storia dell'infarto procurato? Non credo che le cose siano legate, no, piuttosto a me mi inquieta. Che cosa? Inquieta, è un tarlo che mi rola la testa, il fatto di quante persone che sono state interessate nelle inchieste di Ustica, in altre inchieste nel nostro paese sono morte per infarto. Cioè, questo mi inquieta un poco. Cioè, lei ha dubbi sull'infarto? No, per carità, è un tarlo che mi ruota la testa. Come dire, scusi, Borsellino, tante persone muoiono per infarto, troppe. Borsellino, è come dire, verificate se era già malato, se già soffriva di cuore, insomma, questo sta dicendo. No, sta dicendo un'altra cosa, cioè sta mettendo, no, non è che sta mettendo in dubbio, dice io ho un tarlo. Ma io sarà davvero morto di infarto? C'è un'inquietudine che mi qual è però? Ma cosa è morto? Non lo so, è quello che in un paese in cui anche un papa come Papa Luciani non sono chiare le cause della sua morte, no. Questi tarli possono rodere il cervello. Cioè, secondo lei potrebbe sapeva complotto. Cioè, sapeva tante cose. Non secondo me, non secondo me. Però sapeva è un tarlo che mi rode da qualche parte a pensare quanti morti per infarto ci sono. Parisi morto per infarto. E spesso tanti testimoni delle stragi di Ustica morti per infarto. Cioè è un paese strano il nostro, ad elevato livello di cardiopatie che portano all'infarto. Dunque, secondo lei potrebbe essere addirittura una persona, che sapeva troppo ed è stata uccisa? Non ho detto affatto questo. Ripeto, è un tarlo che in un paese come il nostro, purtroppo, ti può rodere da qualche parte ti fa venire pensieri che magari non sono sicuramente giustificati, ma è un tarlo. Però pazzesco. Quando si vive in un certo contesto allora certe cose possono anche venire a un'immaginazione, certo. Ma allora, scusi, qualcuno dovrebbe fare visto quello che lei dice, questo tarlo, questo dubbio che lei, Borsellino, ha in testa, secondo me è un dubbio assolutamente infondato, ma allora qualcuno dovrebbe fare chiarezza, anche secondo me qualcuno deve fare chiarezza allora, probabilmente. No, perché ripeto, non è che ci sono elementi per fare credere una però, cosa del genere. Però è anche quella di Donna Assunta. Donna Assunta che l'altra settimana da noi diceva: i gay sono contro natura, anche gli animali sono più vicini al mondo naturale rispetto ai gay. Donna Assunta. Siccome io sono una contadina abituata a palazzo, ecco, io non ho mai visto un cane che sta col cane, ecco questo. Non sto paragonando gli uni agli animali, ho detto che sono diversi, come noi siamo, come io, cioè la capra non fa il capretto e la donna non fa il bambino, non è il montone che fa il bambino, ma è la capra che fa il bambino, no? Così siamo fatti noi. Donna Assunta Almirante, esperta di animali. E poi il mitico scontro Lucarelli-Cecchi Paone. Lucarelli ha detto: sei un cazzaro, il tuo fidanzato era un gigolò. Sentite. Cazzaro professionista, perché se rilasci un'intervista su chi in cui dici che il tuo fidanzato è per la prima volta una relazione con un uomo e il fidanzato conferma dicendo sì, io prima di Alessandro non avevo mai avuto uomini, e poi dopo il fidanzato 24enne portoghese sul sito di Gigolo Escort eccetera presentandosi come uno che realizza i desideri a uomini, donne e coppie, cioè tu capisci che c'è qualcosa che non torna, no? La risposta in diretta di Cecchi Paone. Ma il problema è questo, che non è vero, per cui la povera Lucarelli io spero che abbia delle case, abbia delle eredità, perché sono la polizia postale e gli avvocati da quando questa cosa è uscita, perché è uscita quando lui è apparso a mio sostegno nell'Isola dei Famosi. La fuga del fidanzato di Cecchi Paone in Portogallo. Ho attaccato la vulnerabilità di un giovane ragazzo che sta sconvolto, è scappato in Portogallo. Non è abituato, noi siamo abituati purtroppo alla barbarie del nostro mondo, ma un ragazzo di 24 anni che fa il surfista e il personal trainer, no. Qui c'è di mezzo un ragazzo giovane, straniero, a cui stanno cercando non so perché di rovinare la vita. E siamo qui alle 19.34 per questa settimana della Zanzara, che inizia alle 18 e finisce alle 20.30, in grande rodaggio, ma sempre all'attacco, eh. Sempre pronti a combattere come leoni nella savana. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. I ministri del Tesoro di Stati Uniti e Germania, bene Italia e Spagna, Berlino con Draghi, sia l'acquisto di titoli pubblici dei paesi in crisi. Va bene l'asta dei BTP, rendimenti sotto il 6%, in rialzo le borse europee, Milano la migliore, guadagna quasi il 3%. Parte dell'Eliseo, la missione europea di Monti, che ribadirà l'impegno sulla via del risanamento. Domani fiducia sulla spending review, il voto appunto tra stasera e domani. Duro richiamo di Napolitano sulla legge elettorale, a 20 giorni dal mio appello nessun passo avanti, aggiunge, sulle elezioni anticipate decide il Quirinale. A Taranto avviate le procedure di sequestro dell'impianto dell'Ilva, salta incontro dell'azienda con la procura, gli operai minacciano nuove proteste. Due detenuti si tolgono la vita, 33 i suicidi in carcere dall'inizio dell'anno, i costituzionalisti chiedono l'intervento del Quirinale. La Pellegrini si rilancia nella sua specialità, 200 stile libero, ma l'Italia che trionfa alle Olimpiadi, lotta, duella e ha una mira infallibile. Attilio da Caserta, buonasera. Pronto Grosani, buonasera. Dica. Dottore. Salve, no, io la chiamavo perché già altre volte a dire la verità ho provato, però le volevo fare un richiamo, se mi consente. Un richiamo, sì. Sì, sì, no, un richiamo, siamo liberi, no? Siamo in democrazia, siamo cristiani, il direttore come preferisce. Sì. Senta, io ho notato che lei ha sempre un atteggiamento sbagliato con chi si permette di dire la parola borbonico, neoborbonico. Allora, dico, ci sono anche questi esserini che hanno letto qualche libro in più sulla materia, che magari lei non conosce, non padroneggia, ma per fortuna no, dovrebbe approfondire, a mio avviso, senza mancare di rispetto, tacciare le persone come dicono qualcosa verso il sud di essere no, guardi, il punto è questo: quando io sento parlare sia di Padania che di neoborbonici, mi metto a ridere. La prima cosa che faccio è mi metto a ridere. Sia questo... di Padania che di neoborbonici, di indipendentisti del sud, cose di questo tipo. La prima cosa che faccio è mi metto a ridere. Poi faccia lei, eh. No, però non può negare che la Padania non esiste, non è mai. Perché invece i neoborbonici esistono, sono una cosa interessante. I neoborbonici. Ma di che parliamo? Allora, Parenzo dovrebbe, chiedo scusa, Parenzo il padovanino. Ma i neoborbonici! Allora, senta, però rispetti anche chi l'ascolta, con molta pazienza. Ma io sto rispettando, ma lei mi sta parlando dei neoborbonici. Ma non esiste allora, anche il legno delle due figlie. Lei, se risente delle sue trasmissioni, lei ha tacciato di quando una persona ha provato a dire che sì, il regno dei Borbone era molto meglio di quello che siamo oggi. Può darsi, ma chi se... detto che erano sciocchezze, no, no, beh, guardi, guardi, se uno mi viene a dire che il regno delle due Sicilie o non so che cosa si stava molto meglio di come si sta oggi, guardi, altro che risata, altro che risata. Beh, dovrei fare. Ci vorrebbe la punturina, ma la punturina quella lunga, però. Allora, sono a disposizione. Ma a quale disposizione? Su. La punturina, però. Studi un po' di più, mi raccomando. Sì, sì, studio, guarda. Io adesso le dico una cosa, amico mio. Bisogna vedere su che testi, poi. I neoborbonici. Buonasera. Sì, buonasera. Le rispondo come Paolo Villaggio Fantozzi nella corazzata Potemkin, a presente, no? E come vuole rispondere? Rispondi allora. I neoborbonici sono una cagata pazzesca. Come Raffaele da Crotone, come buonasera. La corazzata Potemkin. Raffaele da Crotone, dica. Pronto, buonasera dottor Cruciani. Buonasera, dica. Lei dà allegria sempre ai miei pomeriggi. Io volevo dirle questo, ho sentito quel onorevole o senatore il quale era molto preoccupato per i doni di nozze che doveva fare, perché mi pare ai matrimoni, sì, signor Pepe, signor Pepe, all'anno, al mese, non so. Sì. Volevo suggerire che non sono obbligatori, non è che uno deve pensare che andare ai matrimoni sia obbligatorio, e soprattutto non è che uno deve pensare che per fare politica bisogna andare a presenziare i matrimoni. Volevo dare un suggerimento. C'è una volta c'era, lui vorrei che lui lanciasse questa l'opzione in termini di una volta esisteva di ius prime noctis, cioè senz'altro, ius prime noctis, cioè avere il diritto di andare la prima notte con la sposa a letto, in modo che così lui, sa com'è, avrebbe senz'altro forse più successo, un voto certo, e risparmierebbe pure. Vorrei lanciare questo messaggio a lui. Una volta i baroni, i potenti, un attimo solo, un attimo solo, prego. Sì, pronto? Sì, professor Smerieri. Prego. Sì, buonasera, la Zanzara. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Sta seguendo la Zanzara in macchina? No. Sono Parenzo, buonasera. Buonasera. Senta, professore, ma perché lei ha deciso di denunciarci all'Ordine dei giornalisti? Ho scritto una lettera all'Ordine dei giornalisti dopo aver seguito la trasmissione della Zanzara. Ma questo l'abbiamo capito. Per cui prima avete mantenuto un comportamento di simpatia, familiarità con Valerio Fioravanti. Ma quale simpatia? Ma quale simpatia? Parenzo, lei è stato il primo. E io certo, ho detto una cosa che... Valerio. Ma io ripeto quello che ho detto, perché forse lei non ha capito, caro professore. Scusi, Parenzo, se l'ha intervista Friedke, la saluta dicendo "I la Eric", non credo. No, Friedke, scusi, però scusi, Friedke, professore. Non ha avuto lo stesso percorso del signor Fioravanti. Sul punto, mantengo il punto, professore. Il più grave delitto della storia repubblicana. Sì. Sì, ma mantengo il punto, professore, io su quella cosa. Ho detto che la vita di Fioravanti di oggi è una vita diversa, è uno che ha dato la morte, oggi lotta per la vita nella situazione di nessuno. Vabbè, lasciamo parlare, professore. Immagino che anche il signor Friedke sia una persona estremamente diversa da quella di 60 anni fa. Questo è un crimine che merita la giornalisti? Ma lasciamo perdere, caro professore. Questo sì, clima di età, se hai pensato, anziché chiedere scusa di un errore, di deridere gli spettatori che chiamavano per rendere conto di questo comportamento. Cosa che facciamo ogni sera su tanti altri argomenti, come lei a sa. A mio avviso, voi non avete, ovviamente non è una denuncia, sia chiaro. E come no? Perché è un esposto. No. È un esposto all'Ordine dei giornalisti. Vabbè, comunque, insomma, perché in cui si invita l'Ordine dei giornalisti, voi avete violato una delle regole. Ma questo lo dice lei, ma chi l'ha detto? mio parere. Ecco, certo. Appunto. Cioè. Ah, ecco. Una delle regole della deontologia professionale. Vabbè, ma questo cioè lo dice la continenza, lei. Sì. La continenza, la corretta e civile esposizione dei fatti. Vabbè, ma queste sono stupidaggini. Perché noi, ma noi, questa non è la storia, siamo noi. Lei lo sa bene che non è la storia, siamo noi. Dunque, noi possiamo chiamare. Noi possiamo chiamare in diretta chi ci pare, spiegare chi, una persona chi è e chi non è. Non siamo obbligati a fare nulla perché non è la storia, siamo noi. Non è un documentario, ha capito, sì o no? Certo, ma punto e basta. Avete violato una delle regole. Ma quali regole? Ma quali regole? La continenza, ovvero ma quale continenza? Ma non esiste. Ma chi l'ha detto? Ma non è vero, non è così. Non è così. Lei, professore, ipotizza che ci sia stata questa violazione senza conoscere la trasmissione. E chiede pure delle sanzioni per un'intervista che abbiamo fatto. La trasmissione l'ho seguita. Sì, no, ho capito, ma lei non capisce qual è lo spirito di questa trasmissione. Noi non siamo obbligati a dire, a presentare nessuno. Forse non ha capito bene. Cioè non... No, lo spirito a lo parte capisco, che... ma a volte, quando si trattano determinati argomenti, anche una certa sensibilità. No, io non ce l'ho la sensibilità. Sono obbligato ad avere sensibilità? È un obbligo? Una trasmissione no, da non sono. Sì. No, non c'è nessuna. Non c'è nessuna regola che mi obbliga. No, l'ordine o chi per l'ordine, non so chi, non, certamente non giudica sulla sensibilità delle persone. Guarda, si sbaglia. No, però giudica la continenza di una. Ma non lo so, può darsi. Guardi, a me delle regole, delle regolicchie non me ne può fregare di meno. Che protestano. Ma quello è un altro discorso. Per gli 85 morti della strage di Bologna. Ma quello che c'entra? Chi se ne frega? No, io non ho detto questo. Non ho detto chi se ne frega degli 85 morti. Se lo ripete, la querelo. Io non ho detto, che me ne frego degli 85 morti. Ripeto, se lo ripete, lo querelo. Lei ha detto di fronte al signor Luigi che chiamava per chiedere conto del comportamento avuto di familiarità e di mancata introduzione a Fioravanti, ha detto lei va a vedere quello che è accaduto su internet. No, io ho detto se uno vuole, se uno pensa che io debba introdurre Fioravanti elencando tutto quello che ha fatto eccetera eccetera, mentre lo abbiamo chiamato al volo e dunque era anche come dire abbastanza astruso in quel momento dire no Fioravanti, allora Fioravanti è eccetera eccetera, speravo che non si accorgesse di essere in diretta, poi naturalmente se n'è accorto. Ma le esigenze della notizia non valicano sempre tutto e tutti. Ma che c'entra, travalica tutto e tutti, non abbia pazienza, certo. Non è il punto, non è questo. Già precedentemente avevamo spiegato comunque qual era l'argomento in discussione, cioè alcune frasi di Fioravanti condannato per la strage di Bologna, sulla stessa strage, in particolare sul presidente dell'associazione per le vittime di Bologna. Dunque un mini riassunto molto succinto di quello che di chi è Fioravanti, di quello che aveva fatto nella vicenda in questione, l'avevo già fatto, per cui senta, il problema è un altro. Perché lei perde tempo a scrivere carte all'ordine dei giornalisti? No, questo mi stupisce. Lei è un professore di che cosa? Evidentemente un docente di storia italiano in un liceo, no? Evidentemente non c'è niente da fare dalla mattina alla sera, perché se si mette a scrivere due pagine all'ordine dei giornalisti per sanzionarci. Non è vero che ho nulla da fare a questo punto. Sono io che mi sento offeso dalle sue parole. No, può darsi. Sembra che si è una domanda, è una domanda. Evidentemente se non si è tratta, niente. Se si parla in modo familiare, amichevole, con l'uomo responsabile della maggior giudicato responsabile della più grave strage della storia repubblicana, e se poi si deridono gli ascoltatori, questo secondo me un cittadino deve segnalare questo fatto all'ordine. Vabbè, ok. Poi ovviamente se si vive con gli ascoltatori, che c'è battaglia, dov'è la questione? Non ti sovrapporre, dimmi, Parenzo. No, dico, dov'è il problema se c'è battaglia con gli ascoltatori, con una divergenza di opinioni su come viene presentato un ospite e fatto un'intervista? Dov'è il problema? Cosa c'entra l'ordine se io battaglio, se ho così? Ma il problema è un altro, il problema è che abbiamo intervistato Fioravanti senza dirgli che è un criminale, un terrorista, un pezzo di merda, perché se avessimo fatto così saremmo stati applauditi. Siccome li volevamo far. Vabbè, l'ho salutato così, guardi, l'ho salutato così, lo sa perché? Perché volevo instaurare un clima di cordialità per farmi dire le cose, per non farmi sbattere il telefono in faccia. È una tecnica, se lei l'ha capito bene, altrimenti faccia la tecnica, il modo di raggiungere la notizia. E non me ne frega niente a me del resto. Di cosa? Poi si vada a leggere la sensibilità. Ma quale sensibilità? Ma non mi pare che abbia. Ma chi gliel'ha detto lei? Ma scusi, solo per ottenere un'intervista. No, ma scusi un attimo, a parte che non c'è stato nessun caro, come dice lei, ma al di là di questo, scusi un attimo, ma lei è parente delle vittime della strage? è collegato alla strage di Bologna o no? Io vivo in un territorio. Sì, ma lasci perdere, lei è parente di una vittima? Lei è parente di una vittima? Allora, come fa a dire che qualcuno che abbiamo offeso la sensibilità di un parente di un parente della strage? Come fa a dirlo? Cioè, interpreta la volontà, il sentimento di qualcuno? Come io fa a dirlo? Presume che sia così. No, io ho detto che voi avete in questo modo violato. Ma lasci perdere questo, ma come fa a dire che abbiamo... Lo dice lei. A parte che lo dice lei, ma come fa a dire che abbiamo offeso la sensibilità di qualcuno? Primo, nel clima di familiarità instaurata con Fioravanti. E poi deridendo. No, ma come fa a dirlo? Ma come fa a dirlo? Ma lei non è parente di una vittima, perché protestavano, ma sì. Tant'è che anche Adinolfi il giorno dopo ha detto avete sbagliato. E vabbè, Adinolfi mica la Bibbia. Non vogliono mai dire questo. L'ho avuto modo di chiarire con i giornalisti non vogliono mai ammettere No, ma guardi che noi qualche abbiamo sbagliato. Guardi che... devo dire che il giorno dopo un po' lo avete fatto. No, eh? Ma noi qualche passaggio, come dire, qualche sbavatura l'abbiamo tranquillamente ammessa. Non tale da giustificare quello che lei ha scritto. Abbiamo la ringrazio, professore, la ringrazio. Stefano da Bergamo, buonasera. Sì, io innanzitutto volevo complimentarmi perché secondo me lo spirito della sua trasmissione non è assolutamente compreso, perché io l'ho definita un dittatore anche perché l'ho sentito citare da lei la scorsa settimana e molti democratici di strapazzo che la criticano e continuano a chiamarla per imporre quella che sarebbe la loro scaletta non capiscono e secondo me muoiono di invidia perché vorrebbero essere al suo posto e non sono in grado di capire le provocazioni come quella che lei ha giustamente, diciamo, la scorsa settimana proposto con Fioravanti, poi con delle chiaie e lei è talmente dittatore da farsi insultare per tre quarti d'ora come è successo venerdì pomeriggio o venerdì sera con quel tipo che poi l'ha denunciata all'ordine e quindi tenga duro, stringa i denti, tenga duro, non mollerai. Al limite renderà conto il suo editore, ma penso nessun altro. Noi la ringrazio. Io lotto con la crisi tutti i giorni e lei è da stimolo. Vabbè, adesso lo stimolo, non esageriamo, magari Giannino è da stimolo. Personaggi come lei, come Giannino, siete persone che comunque dicono le cose, quindi visto questa risata appunto conferma tutto. Dicono le ma cose di chi è sta risata? Rimettetemela un po', scusate. È la risata di Oscar, eh. Grazie, 800 24 00 24, è con noi il segretario della destra Francesco Storace, buonasera. Buonasera. Un altro moderato, molto bene. Tarenzo, molto sei contento finalmente, eh? Sei contento, ti puoi sfogare moderato. un attimino. Senta Storace, com'è possibile che veniamo messi in croce perché abbiamo intervistato il signor Fioravanti? Veniamo messi in croce, non si può intervistare Fioravanti, non si può usare con Fioravanti un linguaggio normale senza dire sei un criminale, sei un fascista. Anche se avessimo intervistato Curcio, però sarebbe successa la stessa cosa. No, poi... non credo. Beh, sì, non credo assolutamente. Vi fate la domanda e vi date anche la risposta. No, e beh, ogni tanto facciamo così, che dobbiamo fare? Siamo come si dice? Autoreferenziali. Sì. Autoreferenziali. Se volete rispondo, però no, risponda. Possiamo anche ascoltarvi. Rispondi. Diciamo che il linguaggio ve lo cercate anche perché sentirvi paragonarvi a Cristo Croce, insomma, mi sembra esagerato. E chi l'ha detto? Mi hanno criticato, mi sentite crocifissima. Vabbè, ma così, crocifissi nel senso. Modo di dire. Su. Le parole hanno un significato anche in questo caso. Comunque, io credo che abbiate fatto bene a intervistarlo. Ci mancherebbe altro. Si intervistano le persone che sono al centro dell'attenzione, sarebbe sbagliato, non sarebbe giornalismo, quindi non riesco a capire perché vi criticano. Perché il punto è molto semplice, perché quando si intervista qualcuno come Fioravanti e non un terrorista, diciamo, di sinistra, si deve sempre premettere che ha ammazzato quest'altro no, strage di Bologna. No. Come no? È così. Comunque, no, per restare in argomento, ma secondo lei ci avviciniamo all'anniversario? Parenzo è contrario a questa interpretazione. Parenzo è contrario. Sì, ma secondo lei la strage di Bologna si può definire fazioso, sì, è un po' fazioso. È fazioso. No, per me, da qualche parte si fa la visita a Parenzo, così almeno capisce pure lui. Senta, ma secondo lei la strage di Bologna fu una strage fascista? No, io credo che qualcosa che va ancora chiarito e seriamente, perché c'è stata quella famosa pista palestinese che nessuno ha mai voluto approfondire. Sì. Credo che anche Fioravanti e Mambro hanno ammesso una marea di omicidi. Sì. Se negano questo, credo che qualche motivo ci sarà. E poi, insomma, l'inchiesta è piena di dubbi enormi sul ruolo dei pentiti. E io credo che non sia stata fatta verità. Sì. Hanno individuato dei colpevoli senza cercarli. Ma senta, ma lei piace. A lei questo lo ricordiamo sempre, c'è una sentenza scritta, però le sentenze, anche quelle di Cassazione, si possono anche discutere, altrimenti non dove stiamo? Cioè, non è che... E diciamo che non sono solo a discutere, c'è anche una serie di personaggi di sinistra che hanno messo in discussione. Come no? Come no? Questa sentenza. Anche il povero presidente Cossiga lo fece. Come no? Ma lei, per esempio, un personaggio come Fioravanti o come la Mambro, li porterebbe nella destra, magari a tentare di entrare in Parlamento? Li vedrebbe... chi è stato esposto all'accusa di terrorismo ben difficilmente potrebbe fare esperienza politica tradizionale. Io con la Mambro ho sicuramente un rapporto assolutamente cordiale, mi capita anche di incontrarla e non credo che sia uno scandalo. Ah, lei la frequenta abitualmente? No, quando c'è da parlare ci vediamo anche in regione. Ma di che parlate? Ad esempio è molto impegnata nel volontariato sociale. Ha lavorato con varie associazioni, lavora credo ancora con alcune associazioni, anche alcune legate al Partito Radicale. Sì, come no? Certo. Anche lei è contrario alla pena di morte? Anche lei, come la Mambro e Fioravanti, lotta per l'abolizione della pena di morte, contraddica una cosa bella finalmente e moderata. Finalmente, non è che dice solo delle mostruosità, Storace, per quello che pensi tu. Non dico solo mostruosità, non dico mai mostruosità. No, stavo interpretando Parenzo. Io sono un credente, credo che la pena di morte abbia il limite nella forza del principio della sacralità della vita. Bravo. Impongo il problema semplicemente quando ci vanno di mezzo minori. Ecco, me lo sono posta questa questione quando ci fu l'impedimento del cadavere della piccola Chiara a Bergamo. Sì. Ecco la mostruosità. Il di un minore, io credo che potremmo anche pensarci a un reato, a una pena del genere. Ah, in caso di uccisione, di omicidio di un minore. Ecco la mostruosità, lo sapevo. Ma perché la mostruosità? Uno ha detto una cosa, io non sono d'accordo, perché è mostruosità? Ha detto che perché può pensare. Si è contro lo Stato. Attorno a questo tema. C'è gente che non merita di campare, probabilmente se arriva a sopprimere una giovane vita. Anche persino Parenzo dovrebbe capirlo. No, ma capito? Parenzo lo capisce talmente bene che le dice che il suo senso di Caritas cristiana, che il diritto alla vita non c'entra con la pena di morte. Come direbbe Pannella? Il diritto alla vita, la vita Pannella del ci possa insegnare il diritto alla vita, avendo professato l'aborto, credo che sia un po' insensato. Vabbè, adesso perché non è vero, scusi. Ma lei non mi dica che è contro l'aborto. Sono fieramente contro la. Cioè, le vorrebbe eliminare la 194, per esempio? Io credo che andrebbe applicata la 194, soprattutto nella parte della prevenzione. Questa è una vecchia questione. Vabbè, questo, d'accordo, però. Che ormai vi siete anche annoiati di ascoltarla, questo non significa che non bisogna ripeterla. Allora 800 24 00 24, però insomma la sua non dico amicizia, ma insomma la sua frequentazione con la Mambro mi porta a fare l'ultima domanda su questo. Ma lei, per esempio, sarebbe uno scandalo se la Mambro o Fioravanti finissero in Parlamento? Non succederà, ma sarebbe uno scandalo? Potrebbero essere meglio di molti politici? Diciamo che chi ha fatto il terrorista sarebbe bene che non si presentasse alle elezioni, questo credo che sia un principio che sia condiviso persino da loro. Non è in Parlamento, bisogna andare a fare leggi, non le guerre, no? Vabbè, però magari uno la guerra l'ha finita e a quelle si può. Beh, guardi, rispetto ai tanti in Parlamento. Mi dà molto fastidio vedere De Lia in Parlamento. Credo che ad altri darebbe fastidio vedere la Mambro. Credo che ognuno abbia diritto a rifarsi una vita, sì. Però il Parlamento, diciamo, dovremmo destinarlo a persone proprie. Poi, se in questo Parlamento ci siano persone proprie, è un discorso che devo fare con una puntata intera. Non c'è dubbio. Allora, Parenzo, che stai facendo? Che stavi parlando con qualcuno? Con chi stavi? No, no, appunto, voglio dire a Francesco, non tassista, ma voglio dire che è d'accordo con me, peraltro, ma voglio dire a è d'accordo con me, detto? Lei, no? Sono d'accordo con te, pare. Vero che l'altro tassista è d'accordo con me, vero? Non so di cosa parlo. Ecco, ho sentito che è d'accordo con me. Ma non è vero, ha detto che non sai di che cosa sta parlando. Non sa di che cosa sta parlando. Ha detto che è d'accordo con me, lei. Non so di che cosa parlo. Ecco, quindi di cosa parlo, diciamo. È d'accordo con me. Ma non è vero, non sa di cosa stai parlando. Ha appena detto che è d'accordo con me, no? No, no. No. Sì, hai sentito? Sì, abbiamo sentito il contrario, comunque. Vabbè, 800 allora, 20... Cruciani, no, ma che anche detto sa di che cosa parla. Ma no, ma nemmeno Parenzo, cioè il tassista non ha capito di che cosa sta parlando. No, no, ma anche detto poco fa, glielo dica a Storace che dice delle cose terribili. Ma non è vero, non l'ha detto così. Sì? Chiediti se conosce chi è Storace. Fidati, aspetta che torno indietro. Aspetti. Fermo, scusi. Aspetti, Ma gli posso dare io un indirizzo? Scusi, no, mi chiedono da Radio 24 se lei sa chi è il signor Francesco Storace. Sì, lo so. Le piace? No. Ecco, la risposta è chiaro. È fantastica di Valenzo, giustamente. Lo sapevo. Falli dire perché, però, falli dire perché, scusi. No, ma mi costa un botto sta roba qui. Se più rimane, più il tassametro vola, ma ti pare? Ma quale tassametro? Hai già pagato. giustamente ha paura del... Torniamo per un attimo. Torniamo, lo pago e poi lo intervistiamo. Torniamo fra un attimo con Francesco Storace, segretario della destra. Vogliamo chiedergli se è vero che rinasce un grande partito della destra insieme ai suoi ex... camerati, magari non si può dire più, ma insomma, insieme ai suoi ex di Alleanza Nazionale, eccetera, eccetera. Un attimo, le telefono. Pronto? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, dottor Gelli? Chi parla? Salve, Parenzo? Sì, come sta, dottor Gelli? Si ricorda? Venerabile, si ricorda? Sono Parenzo, salve! Sì, buonasera, come sta? Buonasera, sto bene, però sono qui occupato con delle persone, mi scusi. Ma come? Sempre, no, un attimo solo, dottor Gelli, possiamo chiederle una cosa? Come? Pronto? Possiamo chiederle una cosa a proposito di Bologna? Quella frase là sul mozzicone di sigaretta? La saluto, arrivederla. Ce la può spiegare quella frase? Pronto? Venerabile! Abbassato. Era Villa Wanda. Era Villa Wanda. Perché ha sempre delle persone? Ho sempre delle persone. Anche l'altro giorno ho delle persone con me. Ma sempre il cappuccio, però. Il compagno. No, ma che c'entra il cappuccio? Non banalizzare tutto. È un uomo che ha ancora... senza. Che ha grandi relazioni. Il compasso, ho detto. Senza il compasso. No, non credo il compasso. Bene, Storace, è bello risentire ogni tanto la voce di Licio Gelli, Gelli. La voce di Gelli è sempre... No, diciamo chi è, perché sennò di nuovo ci... così, sennò ci accusano. È Licio Gelli, P2, eccetera, eccetera. Il Bologna è stata causata da un mozzicone di sigaretta che poi ha avuto un processo di autocombustione, non so che, però poi ha riaperto la questione della pista palestinese, eccetera. Al centro di tutte le trame, il signor Gelli. Senta, Storace, le farebbe piacere nei prossimi mesi o non so quando... tornare nello stesso luogo politico, nello stesso partito con persone con cui ha militato per tanti anni, La Russa, Gasparri, sì o no? Me lo dica chiaramente. Io credo che si debba tentare di fare ogni sforzo per riunire una famiglia che si è separata, magari però alla guida ci dovrebbe essere uno giovane, altrimenti saremmo un po' sorridere. Cioè? Ogni stagione, anche i suoi dirigenti, vedevo arrivare altri nuovi, noi dovremmo aiutare questi ragazzi a ricostruire la pezza italiana. Ma credo che ci sia più opportunismo che idealismo in questa fase. Stanno tutti a pensare semplicemente alla legge elettorale e non hanno il coraggio della sfida. Vorrebbero ma non possono, vorrebbero ma ancora non hanno coraggio, com'è la storia? Oppure potrebbero ma non vogliono. Potrebbero, oppure fanno capire, ma in realtà poi non vogliono. Sono come Parenzo. Ma qualche volta qualcuno le ha detto: tu vai bene, però dovresti liberarti di qualche persona che per noi è impresentabile? Gli avrei dato uno specchio. Come? Gli avrebbe dato lo specchio, perché impresentabili, lui dice, evidentemente ne hanno anche loro. Veramente sarebbe spiacevole. Io credo noi rappresentiamo un po' la loro coscienza, no? Perché poi hanno fatto tutte scelte assolutamente di convenienza più che di convinzione. Ma non sono uno di quelli che sta lì con la presunzione ad aspettare il figlio al prodigo. Dico, ricostruiamo. Io nemmeno voglio fargli il capo, io voglio attaccare i manifesti di questa nuova destra. Ma non vedo all'orizzonte nessuno che è pronto a sacrificare o a rischiare di sacrificare la poltrona per farlo. Però scusi, Stonace, uno come si può pensare di allearsi con lei quando lei dice sono contro l'euro, ci sono i manichini con Monti che strangolano il paese? Dice pure Berlusconi che è contro l'euro. Sì, pure quello è vero. Pure quello è vero. Poi credo che non saremmo in compagnia di poca gente, insomma, tantissimi italiani non ce la fanno più a sopportare l'euro. Si diceva che era servito 10 anni fa a comprare la casa, 10 anni dopo scopriamo che il 48% dei mutui finisce come carta dei coriandoli. Non credo che ci sia questo amore per la moneta. Guardi che staremmo molto senza euro, cioè se uscissimo oggi dall'euro sarebbe un disastro totale. No, guardi che non usciremmo noi dall'euro, se l'Italia dice no finisce l'euro. Ma anche i greci hanno deciso l'Italia. Ma la informo che anche il popolo greco ha deciso di rimanere nell'euro, quindi voglio dire che erano messi con le pezze al sedere, diciamo, peggio di noi. C'è una grande differenza tra noi e loro, noi siamo un grande paese, noi siamo un piccolo paese. Ah, un piccolo paese la Grecia? No, un piccolo, vabbè sì, rispetto all'Italia è un piccolo paese, questo vuole dire. I colonnelli però gli sono piaciuti, i colonnelli. Senta, ma lei condivide... No, meglio i colonnelli di AN, va bene Valenzio. Senta una cosa, Stonace, ma lei condivide gli attacchi che per esempio anche dal PDL sono fatti nei confronti di Ingroia, qualcuno dice costringendolo quasi a scappare da Palermo? Guardi, a me non è piaciuto affatto, nonostante abbia una posizione critica nei suoi confronti, soprattutto sul suo interventismo in vicende contingenti con la legge elettorale, non è piaciuto affatto vedere sapere che ci sono intercettazioni sul capo dello Stato, anche se in forma indiretta. Credo che un magistrato debba avere anche un limite, che non è quello della verità, la verità va cercata, ma a meno che qualcuno mi voglia far credere che Napolitano sia in combutta con la mafia, avrebbe potuto risparmiarci questa pagina triste. Cioè una volta che si intercettano delle telefonate bisogna subito distruggere quelle del capo dello Stato? Beh, soprattutto perché si dice che siano penalmente irrilevanti e comunque il capo dello Stato... Io non vorrei che restasse solo macerie di questa nostra nazione. Bene, grazie, buona serata. A presto. Che vuoi chiedere? No, l'ultima qualcosa cosa sempre sulle nomine... sul fascismo, no. Che cosa? Qualcosa no, sul fascismo. Non hai fatto una domanda sul fascismo, strano. No, come ma so che ma ormai l'Adopera ha soddato che è un antifascista, Stonace, me lo auguro, visto che si presenta in questo Parlamento, quindi è ovvio che accetta la questione repubblicana, quindi è evidente che è antifascista. Ma gli voglio chiedere questo perché so che è un antifascista. Non dico che cosa è evidente, Parenzo, andiamo avanti. Comunque, su queste nomine di Alemanno, questo signore dei NAR. No, dei NAR, uno che è stato anche. Sì. Banda della Magliana e NAR, no, questo signore. Ma Parenzo ha mai chiesto a Veltroni la Baraldini, se l'hai assunta lui? La Baraldini, che la Baraldini. Bar, perché dice i NAR, c'è anche la Baraldini. La Baraldini. Ma io infatti sono a favore. Però di queste cose lui non parla perché ma è una nomina, è stata una nomina. Io sono a favore di Sergio D'Elia nelle istituzioni, sono a favore. Come no? Io ho detto mille volte marchettare con la sinistra sempre. No, no, a me non scandalizza, tutt'altro, è la vittoria dello Stato che Sergio D'Elia. La nomina di questo signore è stata opportuna o no, Stonace? No, la nomina è stato un contratto durato un paio d'anni, vabbè, quello che... condannato a 30 mesi, non so, ma non sono condannato all'ergastolo. Leggiamo le sentenze, però, perché per banda armata facciamo sì. Confusione, no? Un reato associativo. Associativo, sì, banda armata. Fatti specifici legati a fatti di sangue. Quindi ha parlato di un reato che ha avuto la sua gravità, condannato a 2 anni e mezzo, non all'ergastolo. Dopo 20 anni ha avuto un contratto di 2 anni al Comune di Roma. Bene. Non ce l'ha più da 2 anni. E precisa, io non sono il sindaco, sono anche la sua opposizione. Però credo che si sia fatto una cagnara incredibile in questa storia. Bene. E allora deve difendere anche Sergio D'Elia, che è stato un grande deputato, ed è la vittoria dello Stato che Sergio D'Elia sia stato eletto in Parlamento e avere un contratto da 1.500 euro al mese. Appunto, è molto. Infatti lui ha preso i voti, esattamente. Infatti Sergio D'Elia è stato votato. No, è entrato con le liste bloccate. Ma è una vittoria dello Stato meravigliosa il fatto che lui sia stato un deputato. Ma figurati un po', come si accontenta di vincere, Parenzo. Mentre quell'altro è stato stato scelto e fa ascoltare Parenzo. Comunque lei è dice una pulce fastidiosa, a quello è serve. Siamo qui, Marco, provincia di Alessandria, buonasera. Marco? Marco? Sì, pronto. Dica. Sì, salve, niente, io volevo semplicemente commentare, senza troppo commentare, il fatto che lei, secondo me, è un asino, un cafone, sì, per via dell'intervista di Fioravanti. Ecco. Sì, un asino, un cafone. Anni, sì. E io la seguo da anni e la seguirò anche in futuro, però proprio me lo sento, proprio mi sento di dirglielo dal cuore. Perché sarei un asino e un cafone? Gliel'ho detto, non mi sento di argomentare, perché non ha bisogno di commento, perché dare parola a un personaggio del genere, veramente sì, deplorevole così, cioè, voglio dire, secondo me va fatte comunque delle scelte, anche nel suo programma, che comunque è un programma leggero della sera, tranquillo, sì, in cui la gente si vuole anche divertire. Ecco, questi sono argomenti molto delicati che secondo me vanno trattati con la dovuta delicatezza. Qui non c'è nessun argomento, non esiste nessun argomento delicato. Aveva detto delle cose, l'abbiamo chiamato per capire se le aveva dette davvero oppure no. Punto e basta. Il risultato ottenuto, no, però. Io, ma no, ma guardi, veramente, glielo dico col cuore. Ma lei lo dice. Io volevo usare anche termini più forti, però mi spiace, non voglio essere volgare. Ma lei può fare quello che vuole, può dire quello che vuole. Ha già detto. Che cosa ha detto? Già cafone, asino. Ma sì, vabbè, voglio dire, volevo esprimere il mio dissenso, ma proprio dal cuore. Poi ognuno usa le parole, i termini che più gli vengono più comodi. Io la seguo da anni e mi diverto tantissimo. Sto tanto in macchina, mi diverto a sentire. Però questa è proprio stata una caduta di stile veramente importante. Ma quale caduta di stile? Non c'è nessuna caduta di stile. Cioè, è esattamente nello spirito di questa trasmissione. Evidentemente lei non ha ancora colto bene, ma siamo pronti a... non solo a spiegarglielo, ma lei magari dopo questo episodio lo capirà ancora meglio. Grazie. Paolo da Pescara, buonasera. Buonasera, signor Cusani. Dica. È un piacere parlare con lei. Mm. Le volevo dire, ma non so se posso, se lei mi risponde. Le posso fare una domanda? Sì, dica. Lei quando pensa di essere intelligente? Non faccio riflessioni su questo punto. Ah, lei non fa riflessioni sulla no, sua intelligenza? No, ah, per fortuna no. Però fa riflessioni sull'intelligenza degli altri? No, io faccio riflessioni per quando sento qualcuno dire delle frasi, poi non dico quello è un cretino, eccetera. Lei è un cretino, no, ma sempre no, lei non dice relativamente quello che, relativamente a quello che dice. Sono delle provocazioni per fare ascolto e la capisco. Però spesso e volentieri lei dice io non capisco di cosa stiamo parlando. Beh, qualche volta non lo capisco, sì. La trasmissione è la tua. No, ma qualche volta non capisco, sì, qualche volta non capisco. Evidentemente gli argomenti che lei propone sono nulli. Può darsi, può darsi. Volentieri. Un attimo, guarda, mi scusi, sto lavorando, ho le mani in pasta. Sì, che sta facendo, scusi? Che sta facendo? Provi un po' a indovinare. E che ne so, le mani in pasta può essere tante cose. Ecco, allora, si faccia funzionare un po' di fantasia. No, adesso, Paolo, francamente, adesso non è che poi ho la palla, guarda, di vetro. Le mani in pasta hanno un significato solo. Le mani in pasta uno può fare il cuoco. Lei continua a non capire. Continuo a non capire. Le mani in pasta in che cosa, Paolo? Ma Paolo, io, guardi, in cosa? Guardi, io mi volevo soltanto togliere la soddisfazione. Se ma lei si può sfogare. A darmi la linea. Sì. A darmi la linea e a richiamarmi. Sì. Volevo soltanto dire questo perché l'ascolto spesso. All'inizio mi piaceva di più. Ma le mani in pasta dove? La pasta. Lei sa cos'è la pasta? Sì, le mani in pasta. Sì, fa il pizzaiolo. Cosa fa? Il io cuoco? Cosa fa? No, guarda, non c'entra niente, non è che è collegato il mio mestiere con quello che sto facendo adesso. Ah, no, stai in cucina? Oh. Ho le mani in pasta. Ah, le mani volevo in pasta. Soltanto dire, ma lei sa? Ma, qui no, ma non siamo, ma non è la, vede, non è che quando io le chiedo questo lei deve rispondermi come se fosse il segreto di Fatima. Cioè, non si tratta io non credo dei segreti sulla trattativa Stato-mafia, ci deve semplicemente dire che cosa significa avere le mani in pasta. Avere le mani in pasta, esiste una pasta e ci sono delle mani. Sì. Se lei unisce le due cose, uno ha le mani in pasta. Sì, pasta. Ma pasta di che tipo? Cosa significa pasta? Pasta di che tipo? La pasta. La pizza pasta. Sta farina facendo. E acqua. Sta facendo farina la pizza. Ascolti, comunque, rispondo, volevo dire, vabbè, ognuno di noi dovrebbe avere un ruolo. Sì. Giusto? Quando si parla del nulla, ogni giorno, sì, del nulla, del e si continua a dire io non capisco, io non me ne frega niente, ma lei di che cosa sta parlando? Sì. Lei è un cretino, lei è un deficiente, sì, ma cioè si può essere non d'accordo, però se io dico che lei è un deficiente, è un'opinione mia, giusto o no? In radio non va bene, sarei uno scostumato, poi vado a capire un po' una radio immondizia spazzatura che fa audience. Sì. Però usare questo strumento nel personale verso una persona che poi l'ascolta pure in qualche modo e dà pure lo stipendio. Volevo soltanto dire questo. Chi è che darebbe lo stipendio? Non avete un ruolo nel futuro dell'umanità, né lei e nell'altro. Parenzo, hai capito? Guarda, io l'unico che posso dire a questo amico che ha avuto la gentilezza di chiamarci. Sì, non essere così triste, però. Sì, vabbè. No! Sta voce così bassa. Faccia fare la battuta a Parenzo, la solita battuta che non è né carne né pesce. Sì. Senta, professore. Professore? Professore? Io non sono professore, Maestro, cos'è? Maestro, ci insegna. Non allora, neanche un illuminato come voi, pieno di perfezione. Ci illumini. No, ma nessuno è illuminato. Vabbè, in questo momento credo proprio che molta gente è d'accordo con me. Sì. Molta gente, cioè, fa un sondaggio. Ci illumini, Paolo. Come Mannheimer ha fatto un illuminato. Io sono così spento. La differenza tra me e voi è probabilmente la consapevolezza. Ah, cioè voi lei... Voi siete consapevoli, scusi, proprio. Noi non siamo consapevoli di cosa? No, assolutamente. Ma di cosa? Di quello che fate e di quello che siete. Cioè che siamo, come ha detto prima... Non lo sapete cosa fate e cosa siete. No, non sappiamo cosa siamo e cosa facciamo. Secondo questo è interessante, me, no. Interessante questo, Paolo. Molto interessante. Secondo me no, questo. Ma io sto dicendo una mia opinione. Grande seduta psicologica. Siamo sul lettino del dottor Paolo. Io sono come tanti altri e sto esprimendo soltanto la mia opinione. Sì, sì, perché. Ma lei è lacaniano o freudiano o junghiano, lei? Eh? Lei è lacaniano, freudiano o junghiano? Professore. Lorenzo, io non le posso dire veramente cosa penso in questo momento, capisci? No, ma lo dica! No, lo dica, lo deve dire. Certo che può. Lo deve dire. Ma cos'è il gioco delle tre carte? No, lei deve dire quello che pensa, altrimenti... Busta numero uno, busta numero due, busta numero tre. La tre, facciamo la tre. Cosa si vince? Facciamo la tre. E cosa si vince? Niente, si vince la sincerità. E allora, gratis, perché? La sincerità. Cioè, io troppo che sto parlando gratis, capisce? Sì. Almeno a voi vi pagano. Sì. Io ho soltanto espresso un desiderio di parlare con voi e di dirvi queste quattro stronzate. Ve le ho dette, vi ringrazio. Sì. Bravo. Bravo. Almeno lei è consapevole di quello che ha detto. Comunque continuerò ad ascoltarvi. Allora, intanto Di Pietro oggi ha detto che Napolitano e Monti sono peggio di Berlusconi, Direi addio Di Pietro per quello che riguarda l'alleanza con il Partito Democratico. Addio Di Pietro, Poi uno straordinario titolo della Nazione, edizione di Prato. Cinese ucciso a coltellate. Leggete bene. Cinese ucciso a coltellate è giallo. Vabbè. Geniale, Secondo me non ci hanno pensato. Manuel da Verona, buonasera. Sì, pronto, buonasera signor Cruciani. Dica. Io volevo chiederle a titolo informativo se gli ospiti li sceglie lei oppure qualcun altro, insomma. Li scegliamo la noi CIA insieme. Sceglie. Qualche volta intervengono anche i servizi segreti, Che decidono. Perché non so come si faccia a dare spazio a gente come Dell'Utri, Fioravanti, sì. Cancimino. Sì. Che poi comunque lei, ci sono i servizi, Manuel, sono i servizi. C'è la manina dei servizi, c'è la manina dei servizi. No, guardi, insomma, io le sto facendo una critica in modo costruttivo, lei se vuole mi risponde in modo serio. No, la risponde in maniera seria. No, e se no dice le solite cretinate che dice spesso alla sera. Sì. Lo fa anche con me, tanto lo fa con tutti, no? Sì, guardi, davvero le sto dicendo, c'è la manina dei servizi. Che poi giovedì scorso c'è la manina dei servizi. Noi ogni giorno incontriamo una barba finta. Ogni giorno. Allora, giovedì scorso lei ha detto. Sì. E mi ricordo bene. Non si nervosisca. Che lei, se potesse, sì, chiamerebbe subito Battisti e gli darebbe voce nel suo spazio. Beh, certo. Certo. Cioè, lei darebbe voce a un terrorista, certo, nel suo spazio telefonico. Certo. Ma sicuro? E si ritiene una persona intelligente. Ma non lo so se mi ritengo una persona intelligente. Comunque chiamerei Battisti a parlare, certamente. Per quale motivo? Cioè, scusi. Ma Dio, no, perché? Ma non mi va di spiegare, mi metto a piangere, voglio piangere. Ma lei chiamerebbe un voglio terrorista piangere. Che comunque è terrorista condannato. Voglio cioè... piangere, voglio piangere. Voglio piangere. Capitate. Voglio piangere. Voglio lei piangere. Darebbe spazio a questa gente. Voglio piangere. Ma vuole la lista delle persone che io vorrei immediatamente? Non so se cruciale. Mafiosi mi sembra comunque. Subito. Voglio piangere. Mafiosi mi sembra, vero? Ma se voglio lei avesse la, ma si metta nei nostri panni, io interviterei immediatamente. Allora io mi metto nei vostri panni, capisco che dovete fare gli ascolti. Ma che, ma chi ascolti? No, né notizie dobbiamo tirare fuori. Io Rina lo intervisterei immediatamente, sentire la voce di Rina. Sarebbe una cosa che mi farebbe... Lei darebbe voce, ma che spazio, cioè lei darebbe la possibilità di difendersi o comunque di dire, ma la chi sua, difendersi? Così. Ma che difendersi? Ma intervisterei subito Rina, subito anche il signor Delfo Giorgi. Ho capito. Ma subito, subito. Complimenti. Io ci barrei una birra al bar, già che ci siamo. Voglio piangere, Manuel, voglio piangere. Una birra al bar, voglio piangere. Lei non si è posto una domanda, lei non si è posto una domanda. Voglio piangere, voglio piangere. Se ce ne sono mille che la chiamano giovane, gli fanno tutti la stessa critica. Voglio piangere. Un fondo di verità c'è. Voglio piangere. Voglio piangere. Perché non sono solo io che salto fuori con questa domanda, ve la fanno in tanti, allora chiedetevi il perché. Voglio subito. Bernardo Provenzano, Totò Riina, Delfo Zorzi che è in Giappone, subito. Non ce la faccio Franco più. Fred, Renato Curcio, subito alla zanzara. Ho capito. Ma vado avanti ancora con la lista? Certo, va bene. Saverio da Foggia. Manuel, grazie. Saverio da Foggia. Saverio da Foggia. Questa sera chiudiamo alle 20:30 per una settimana, poi chissà. Saverio, dica. Va bene, sì. No, io vi volevo, più o meno la mia domanda verte su quello che diceva l'ascoltatore prima, però in un modo diverso. Ora io credo che una radio, un giornale nasce per fare informazione, per darlo al pubblico. È vero che diceva Montanelli, in Italia un giornale non è mai nato per fare informazione, ma sempre per servire qualche lobby, e forse la funzione pure di Radio 24, questo non lo so. No, guardi, però io vi guardi, ascolto spesso. Io servo una sola lobby, quella di Cruciani Parenzo, questa è la lobby che serve. No, però una radio ha una funzione, se gente l'ascolta avrà una funzione pure pedagogica, pubblica. Ma quale, no? Ma quale funzione pedagogica? Far sentire, dare qualche notizia, intervistare qualche persona fuori dai canoni. Bravo. Fuori dai canoni. Bravo. Invece nella vostra trasmissione si intervistano i delinquenti anche, spesso, proprio spessissimo si intervistano quelle persone che ci rappresentano. Però spesso da voi ci sono quelli che hanno votato che Rubbia la nipote di Mubarak. Certo, quello li rappresenta anche lei. È certo che lo è. Allora gli chiedo, ecco, gli secondo me questi qui dovrebbero essere cancellati dalla cancellati, scena pubblica. Cancellati. Lei non li deve chiamare. No. Non si sente offeso quando un suo rappresentante vota così? Lei non si sente offeso? No. Ah, ecco. E allora ecco perché lei serve una lobby, serve questi qua. Avevo ragione io, lo diceva Montanelli, in Italia mai un giornale o una radio è nata per informare la gente, è sempre per servire qualcuno. Comunque vi ringrazio che me l'avete fatto dire. Sì, Saverio, guardi che il punto non è questo. Io cerco di tirare fuori dalle persone il peggio qualche volta, cioè tutto quello che non vorrebbero dire. Poi ogni tanto mi arrabbio per qualcosa, ogni tanto cerco semplicemente di far sfogare le persone. No, ma io dico, ma scusate, io forse sono vecchio, sono vecchio, ho 62 anni, forse sono vecchio, però. Un'opinione pubblica è che chieda conto ai signori che ci amministrano, ma come si forma? Con la radio che fate voi. Ma chi l'ha detto? Ma io non mi sento avere nessuna funzione. No, però se ci fosse una, perché vedete, se ci fosse una libera informazione, forse come paese saremmo pure meglio. Invece no, lei ha messo Confindustria, l'ha messo lì, è radio di Confindustria, contro Confindustria, magari qualche volta dice pure qualcosa. Quell'altro, il Corriere della Sera, che c'ha fiori di giornalisti, però ce ne sono alcuni che io non li sopporto. E che devo fare? Quelli che mi piacciono, non ne conosco neanche la faccia, a parte qualcuno. Allora, come si fa? Come si informa la gente? Come si informa la gente? Vabbè, grazie Saverio. Fabio da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. No, niente, io volevo solamente farle un piccolo appunto, se mi permette. Non sono d'accordo sul suo sbeffeggiamento nei confronti di quell'ascoltatore che parlava dei Borboni. Ma lei, una domanda, lei a Parenzo. Ma lei pensa che sotto gli austriaci a Milano, sotto il Papa a Roma, si vivesse tanto peggio o tanto meglio di a Napoli sotto i Borboni? a Napoli, nel regno delle Sicilie, era un salotto culturale in Europa. Uno il legno delle due Sicilie, no? Le industrie tessili di San Leucio, i pastifici di Gragnano, la prima ferrovia europea, la Napoli. Ma l'impero austro-ungarico? È stata fatta là. Perché non il Granducato di Toscana, allora? Ad esempio. Noi sto parlando di quell'epoca storica. Perché non lo Stato Pontificio? Oggi, no, io non sto dicendo... No, scusi, c'era il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli. Scusi, Massimo, abbia pazienza. Fabio. Allora, che... Perché non le Repubbliche Marinarie, ad esempio? Allora, Fabio, se facciamo il paragone di come si viveva all'epoca, può darsi, adesso non ho ben presente i parametri e i dati, eccetera, può darsi che in quell'epoca storica si vivesse meglio nel cosiddetto Regno delle Due Sicilie piuttosto che non so dove. Può darsi, non lo so, ma non è granché interessante questa discussione. È interessante per gli storici, per gli appassionati. Ma infatti, da un punto di vista storico, sì, è chiaro. Io sono antimonarchico per eccellenza, ma non è questo il punto. Ma non ce ne può fregare di meno, ha capito? Cioè, non ce ne può fregare di meno che all'epoca non è un atto, non è che uno rivendica e dice, oh, sai, si vedeva talmente bene. Dunque, l'unità d'Italia è stato un disastro per il Sud. Ma di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Ma un attimo, con l'unità d'Italia. Tutte le industrie sono state portate in sì, Piemonte. Ho capito, Fabio. Banco Sicilia e Banco di Napoli in 50 Voglio anni sono scomparsi. Stasera è finito tutto ed è sorta la mafia, la camorra. Vabbè. In maniera incontrollabile. Questa è una realtà. Era meglio quando si stava peggio, insomma, questo è il punto. Non lo so, a quell'epoca penso che a Napoli si vivesse meglio che a Milano. Benissimo, grazie Fabio. Massimo da Parma. Signor Massimo da Parma. Io stavo meglio quando a Venezia c'era il Doge. Sì, dica. Il Doge. Vabbè. Volevo aggiungermi gli ascoltatori che hanno ritenuto l'intervista a Fioravanti abbastanza disgustosa, ma questo sì. Meglio non parlare. Si aggiunga per carità. No, vabbè, tanto ormai mi sembra palese questo, però. Ma palese secondo lei? Palese quale palese di che? Per chi? Intanto sia disgustoso per me, voglio dire, gliel'ho detto. E questo è per lei, ma non è palese per nessuno, è palese a lei forse, no, che è disgustoso. Okay, ma non volevo dire questo, ma non volevo parlare su questo. Intanto l'ha detto, non voglio parlare, intanto l'ha detto, senti delle merde, però intanto voglio parlare d'altro. Volevo fare un'altra domanda, volevo dire un'altra domanda relativamente a questo argomento. La prima era che se siete così convinti di essere nel giusto, aver intervistato Fioravanti, l'esposto di quel professore non dovrebbe farvi temere di nulla. Non vorrei essere volgare, dopo averlo letto. Non è che non lo vuole lei, o è volgare. Dopo averlo letto, posso anche andare un attimo di là ai cosiddetti servizi, come dire. La cosa che dà più fastidio, io credo che al di là del fatto che voi possiate fare quello che volete, è il modo di come voi apostrofate i vostri ascoltatori, con questa ironia un po' malsana, insomma, mi dispiace per Parenzo che io ritenevo una persona abbastanza equilibrata, aver fatto quelle battute su quella persona mi sembra da Pescara, che la persona delle mani in pasta e così via. Non si capiva a un certo punto, scusi. È una domanda stupida e ma è lui che l'ha detto? Ma qua l'ha detto lui? No, il fatto di dire che cos'è lei, non sono della cultura del buon Parenzo, quindi non so. Ma che non cosa ha detto affatto così. In modo ironico, ho detto semplicemente. Ma non è ironico, è un modo di prendere in giro le persone che, voglio dire, non ci sta in questa cosa. Se siete convinti di aver fatto il giusto, Fioravanti, secondo me non l'avete fatto, perché dovete fare in quel modo gli ascoltatori, voglio dire. Uno trasmissione è fatta anche di queste cose, Massimo, io non la sto affatto apostrofando, è uno dei tanti esempi che ci sono evidenti del fatto che non è che tutti vengono trattati allo stesso modo. Per alcuni c'è il trattamento punturina, ma non è questo il punto, evidenziare il fatto che c'era una differenza di cultura tra lui e l'ascoltatore. Ma va bene, secondo me Parenzo, voglio dire, poteva evitare quel tipo di, e comunque potreste evitare di apostrofare i vostri ascoltatori in quel modo lì. Va bene, grazie, ho capito tutto, ho capito. Salvatore da Roma, buonasera. Salvatore, mi sente? No, Massimo da Roma. Non Massimo, so. Dica. Io volevo esprimere un giudizio sulla sua risposta alle affermazioni a Bindi, poco lusinghiera. Nel senso, ma non c'era niente che riguardasse in particolare la Bindi. Ho detto che sulla legge elettorale ognuno fa il comodo suo, ognuno vuole ottenere un vantaggio, ha capito? No, è proprio su questo che secondo me. Non è così, invece qualcuno guarda al paese. Lei ha sbagliato il giudizio per il semplice fatto. Sì. Che il PDL piuttosto che il PD e l'UDC insieme sostengono come compagine un governo e quindi necessariamente è troppo lungo, ci sentiamo domani Massimo, è troppo lungo, devo chiudere, a domani alle 18, ciao.